Buonasera a tutti. Siamo in tanti. Siamo in tanti, quindi cresce l'emozione, cresce anche il senso di responsabilità da parte di tutti noi per quello che stiamo affrontando, ma cresce anche il conforto, la spinta e il coraggio che tutti riuscite a darci. Abbiamo un grande obiettivo, quello di rianimare Como, cioè di fare riemergere l'anima vera, bella della nostra città che è stata un po' persa in questi anni disastrosi di amministrazione. Dobbiamo riuscire a trasformare queste occasioni mancate in opportunità da cogliere. E questo significa cambiare, passare da un'autoreferenzialità, un'amministrazione chiusa, all'ascolto quotidiano e alla trasparenza. Significa passare dalla mortificazione delle forze vive che ci sono ancora e sono tante in città, a un loro coinvolgimento, l'attivazione di percorsi virtuosi per far collaborare tutte anche le realtà presenti sul territorio alla crescita della nostra città. Significa passare dalla trascuratezza della cura della nostra città che è sotto gli occhi di tutti, non solo nei quartieri ma anche in Convalle, a un impegno quotidiano per una città vivibile, pulita, ordinata. Significa passare dalla mancanza di una progettualità per il futuro alla capacità di pensare in prospettiva sia per noi sia per i nostri figli. E significa anche recuperare quella perdita di prestigio che in questi ultimi anni ha colpito la nostra città per riassumere il ruolo di capoluogo, riassumere una presenza importante a livello regionale e recuperare anche la dimensione internazionale della nostra città. E significa anche passare dalla demotivazione diffusa nella struttura comunale, nell'apparato che deve supportare tutti i progetti e tutto quanto si deve realizzare per la città, passare a una riorganizzazione e una valorizzazione delle competenze che ci sono. Il nostro è un progetto, una proposta che non parte oggi, parte dall'importante percorso di partecipazione democratica delle primarie che ha visto tanti cittadini coinvolti e passa poi dal lavoro di squadra che subito dopo le primarie è stato attivato e che ha coinvolto tante persone per costruire insieme un progetto per la città. È stato un lavoro serio, impegnativo, per un mese e mezzo, quasi due, circa 150 persone si sono ritrovate settimanalmente con grande impegno, grande passione, grande competenza anche, ed è questo il lavoro che vogliamo condividere oggi con tutti voi e con la città. Non è un lavoro chiuso, finito, preconfezionato, anzi un lavoro aperto a ulteriori contributi, all'apporto di idee e di proposte di chi in città come noi vuole cambiare il passo. Per questo mi è sembrato giusto che ci fossero con me questa sera le persone che hanno coordinato i lavori di questi gruppi, anche loro con grande serietà, grande impegno e grande efficacia, e quindi chiedo a loro di salire con me sul palco per affrontare la parte successiva della serata. Gisella Introzzi, che ha coordinato i gruppi di lavoro sull'economia, sulla partecipazione e sul lavoro, sulle problematiche del lavoro. Alberto Bracchi, che ha fatto uno scherzo da qui, è scomparso da dietro, che ha coordinato il gruppo di lavoro sull'ambiente, sul territorio, sulla mobilità e sull'urbanistica, Silvia Magni. Che ha coordinato il gruppo di lavoro sulla cultura, sul turismo e sullo sport. Bruno Magatti, che ha coordinato i lavori sul sociale, sul welfare. Stefano Panetti, abbiamo pensato che per una città che deve recuperare fiducia nel futuro ci dovesse essere anche un gruppo in cui i giovani si relazionavano con la città, quindi il suo gruppo di lavoro ha discusso, ha ragionato sul rapporto tra i giovani e la città. Saranno intervistati da Giorgio Cortella, giornalista, col suo aiuto ci presenteranno in sintesi i punti principali del programma a cui abbiamo lavorato e poi per avere lo spazio poi di interventi da parte vostra per contributi e idee. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Direi che partiamo immediatamente con uno dei temi caldi di questo nostro tempo che stiamo vivendo, quindi il tema legato al mercato del lavoro, legato al mondo dell'impresa, con Gisele Introzzi che, come ha ricordato Mario Lucini, ha guidato il gruppo di lavoro su questi temi, oltre che sul funzionamento, diciamo, della macchina comunale e sul metodo che l'amministrazione intende portare avanti nel momento in cui verrà chiamata alla guida della città. Ecco, diciamo, prima domanda è questa: gli anni di governo del centrodestra a Como, in modo particolare l'ultima giunta, sono stati caratterizzati da una sorta di autoreferenzialità, abbiamo sentito dire anche da Lucini, dell'amministrazione comunale rispetto alla città, che di fatto si è tradotta in una poca o nulla capacità di ascolto di quelle che sono i bisogni della società civile. Trasparenza e partecipazione sono due delle parole chiave che avete inserito nel vostro nel lavoro del vostro gruppo. Una promessa quindi nei confronti della città di Como rispetto allo stile, al metodo che volete andare ad applicare una volta che la vostra coalizione si è premiata andrà a guidare l'amministrazione comunale, o addirittura qualcosa di più di questa promessa? Buonasera a tutti. Senz'altro qualcosa di più di una promessa, perché io credo che una delle mancanze principali di questa amministrazione sia proprio stata quella del dialogo con i cittadini. Cioè, penso che sia stata un'amministrazione capace di costruire muri, e il muro che ci ha nascosto il lago dalla vista, e un muro fra gli amministratori e tutti i cittadini, anche i cittadini che questa amministrazione l'avevano sostenuta. Quindi partecipazione e trasparenza sono delle parole d'ordine proprio per recuperare un rapporto positivo e direi sano, come sempre dovrebbe essere, con la città. Metodo di partecipazione che non è solo una promessa, perché abbiamo iniziato a praticarlo. Ricordava Mario Lucini il lavoro per la predisposizione del programma. Io ho lavorato come coordinatrice nel gruppo economia, ho provato a seguire anche altri gruppi. Devo dire, ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono stati presenti, non è vero settimanalmente, più di una volta alla settimana. Le riunioni sono state spesse volte, quindi è una cosa straordinaria su cui io credo che tutti dobbiamo pensare. Ci stiamo lamentando di una città distante dalla politica, di una città passiva, non è vero. In questi mesi abbiamo visto all'opera una città molto desiderosa di essere partecipe. Che cosa vuol dire partecipazione? Allora vuol dire senz'altro ascolto, ma non vogliamo fermarci all'ascolto. Una partecipazione vuole, ha tante fasi, vuole dire informare, ascoltare e informare la città in maniera chiara, comprensibile, costante su quello che succede, anche sui passaggi difficili. L'informazione è un primo passo, la consultazione, quindi creare dei momenti organizzati e sistematici anche qui di ascolto della popolazione, delle diverse componenti, i giovani, le comunità, dei cittadini di altre nazionalità che vivono in città, ma anche un rapporto costante e attivo con le forze economiche rappresentative delle imprese e dei lavoratori. Quindi consultazione prima di assumere delle decisioni, ma ci piacerebbe poi poter costruire un percorso virtuoso dove la partecipazione si esprime anche proprio nella gestione partecipata delle sperimentazioni interessanti di bilancio partecipato in altre città. È già stato sperimentato con successo, io credo che a Como, se ci applichiamo con attenzione, questo possa essere avviato, il che vuol dire prevedere delle risorse, parte delle risorse del bilancio, compatibilmente evidentemente con le situazioni complessivamente non certo facili, ma rispetto alle quali le scelte sono demandate, sono condivise in maniera diretta con i cittadini. Ecco, si parlava del momento difficile che stiamo vivendo a livello economico, basta leggere i giornali, ma ancora di più basta guardarsi attorno, vediamo che il centro cittadino tende a spopolarsi di negozi, vediamo imprese artigiane e industriali costrette dalla crisi a ridimensionarsi con molto spesso anche pesanti conseguenze in termini di tagli occupazionali, giovani che faticano a trovare dopo gli studi un lavoro che dia un minimo di prospettiva e insomma il ceto medio che per anni è stato il ceto che ha permesso la crescita di questo nostro paese, che ormai tende ad assottigliarsi, quasi a sparire. L'economia comasca vive un momento di grande difficoltà, il tessile, la grande stagione del tessile è ormai un ricordo e di fronte a questa situazione sembra che il Comune stia a guardare quasi da spettatore passivo rispetto a quello che sta succedendo. Che tipo proposta voi fate perché il Comune possa assumere un ruolo più propositivo rispetto a questa situazione? Anche qui penso che proprio il primo passo sia quello di un'amministrazione che è sensibile e aperta a questi problemi. Io credo che in questi anni la città di Como non abbia saputo dialogare né con le forze sindacali né con le forze imprenditoriali, quindi nemmeno con le forze del mondo commerciale che tradizionalmente è stato più vicino all'amministrazione. Quindi anche qui la prima cosa secondo me è riconoscere che il tema dello sviluppo economico, delle condizioni di lavoro, di svolgimento dell'attività di impresa è un tema importante per una città, perché deve sicuramente assicurare i servizi diretti al cittadino, ma l'aspetto economico non è indifferente. Allora qui si può e si deve intervenire sia sul versante del lavoro che sul versante delle imprese. Del lavoro, una cosa elementare, banalissima, un più efficiente servizio di informazione fra offerta e domanda di lavoro rivolto soprattutto ai giovani, un'attività organizzata di stage aziendali che non siano stage, che non siano una scusa per uno sfruttamento di lavoro a basso costo, ma costituiscono effettivamente un'occasione per i giovani di avvicinarsi e di conoscere il mondo del lavoro, un rapporto anche da questo punto di vista più stretto e organico con il mondo dell'università, un supporto dell'università all'innovazione, attività di ricerca per le imprese. Un supporto al lavoro vuol dire ad esempio pensando che una maggiore partecipazione al lavoro può venire a Como come in tutte le realtà della nostra regione, soprattutto da un aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Per aumentare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro occorre in primo luogo che sia una città organizzata con dei servizi che consentano alle donne di lavorare e di far fronte agli impegni familiari, e questo dipende da un'organizzazione diversa della città, quindi sono tutte forme di impiego anche temporaneo delle persone che possono essere senza lavoro oppure di inserimento di cittadini provenienti da altre parti. Ecco, sono delle indicazioni ben precise che fra l'altro sono tutte raccolte nelle schede che abbiamo preparato e che derivano, ripeto, dal fatto di proporsi questo obiettivo. Ultima possibilità, sempre se le condizioni economiche lo consentono, anche un sostegno con dei contributi diretti all'assunzione, all'inserimento di giovani o disoccupati o inoccupati nell'azienda. Non sono, attenzione, non sono cose assurde o che stanno fuori dalle possibilità di un comune. In Lombardia ci sono comuni sia governati dal centrodestra che governati dal centrosinistra che cose di questo genere le fanno. Le fanno in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche. Imprese molto rapidamente, le imprese chiedono di essere aiutate nel semplificare le loro procedure, questa è una richiesta che ritroviamo con una litania da tutte le parti. Ecco, credo che il Comune da questo punto di vista molto possa e debba fare. Le imprese chiedono di essere, pensiamo appunto a Como, settore commerciale, ma settore del turismo, quanti danni subisce dal fatto delle condizioni che la città è lasciata. Quindi un modo concreto per aiutare le imprese è facilmente individuabile. Ma ancora una volta io punterei, come citavo prima, nei rapporti con l'università, in programmi che siano di supporto all'innovazione delle imprese, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche sul piano organizzativo e gestionale. È un modo anche per dare un senso e un rapporto fruttuoso alla presenza di un'università che altrimenti rischia di essere qualcosa di staccato, che non deve essere, perché abbiamo bisogno invece che aiuti e favorisca questo processo di rinnovamento della città. Certo che avete un bel coraggio a presentarvi in queste amministrative, nel senso che chi si presenta a queste amministrative sa che deve fare i conti con dei bilanci, con delle casse del comune, diciamo, degli enti locali sempre più depauperate. Da un lato c'è il problema del patto di stabilità che applicato in modo così lineare rischia di tagliare le gambe, di minare quelle che sono le possibilità di autogoverno dell'ente locale, ci sono sempre meno trasferimenti e c'è il rischio a questo punto che ci siano anche sempre meno risorse per i servizi essenziali. Esiste una via d'uscita secondo voi a questa situazione di grave difficoltà? Si riescono a recuperare risorse? È una scommessa, i miracoli non li fa nessuno, però delle strade che possono essere tentate indubbiamente ci sono. A parte il fatto che sarà opportuno, so che Mario Lucini ci si sta dedicando con attenzione, sarà opportuno fare il punto della situazione su quali sono le condizioni in cui l'amministrazione uscente lascia le casse della città, questo sarà importante. Ma io penso che anche qua c'è una gradualità di interventi tutti molto importanti. Il primo, ci sono i tagli nei trasferimenti. Non sono, io penso che la voce del Comune di Como che possa dissentire dalla stagione dei tagli, dalle modalità con le quali i tagli sono stati fin qui applicati, possa e si debba far sentire. Sulle precedenti manovre finanziarie abbiamo sentito esponenti dei comuni di tutta la Lombardia, anche qui abbiamo sentito con forza la voce anche del presidente dell'ANCI Lombardia, che sindaco di Varese, quindi un sindaco leghista, abbiamo sentito il presidente della regione Formigoni, non abbiamo sentito assolutamente il comune di Como, come se questa cosa fosse influita. Ecco, io credo che una presenza molto più forte, molto più attiva nelle sedi proprie da parte del comune sia necessaria, cioè non li do per scontati questi tagli. Poi quello che si può fare sicuramente è quello di porre mano ad un contenimento della spesa, ad una lotta agli sprechi, ad una verifica di quali sono i settori nei quali si può tagliare, e questo va fatto in maniera attenta e precisa, avendo presente non solo i dati ufficiali di bilancio ma i documenti interni, spingere molto per una razionalizzazione o uno snellimento della struttura. Credo che in questo discorso debba essere anche coinvolto tutto il sistema delle società partecipate, debba essere svolto un'opera attenta soprattutto nei confronti degli appalti, perché una delle voci più consistenti del bilancio del Comune di Como sono le spese per acquisizione di servizi, in cui c'è dentro di tutto, sono delle cifre che sono più che doppie rispetto alle spese del personale. Ecco, io penso che su tutta la gestione degli appalti invito poi ad andare a vedere il materiale che abbiamo prodotto, è un argomento sul quale ci siamo soffermati a lungo, ci sia proprio molto da lavorare, perché da una gestione efficiente e moderna degli appalti si tratta di ricavare innanzitutto dei risparmi, dei contenimenti di spesa, e si tratta poi di associare ad un controllo esatto dei risultati, della qualità. Controllo che noi auspichiamo venga anche affidato il più possibile al coinvolgimento proprio dei cittadini, e ci ricolleghiamo con il discorso di partenza della partecipazione. Ma questo è quello che si può fare, cerco di essere il più rapida possibile sul versante interno, ma non trascurerei nemmeno il fatto di riuscire ad andare a recuperare dei finanziamenti esterni. Cioè, come diceva Mario Lucini prima, il comune diventa un po' il perno di una politica più allargata. E allora molti progetti si fanno creando collaborazioni con altre istituzioni, creando anche progetti compartecipati dai privati, e laddove ci sono delle buone idee, delle iniziative interessanti, che per un modo o nell'altro i soldi si portano a casa. Ecco, il comune è forse oggi, se non la più grande, ma quasi impresa della città di Como, 1 miliardo di dipendenti circa, eppure non sembra che tutto, diciamo, giri come dovrebbe girare. C'è chi parla di poca competenza, c'è chi invece dice che ci sono delle competenze, ma queste competenze sono disperse, sono state mortificate dalle amministrazioni che fino ad oggi hanno retto le sorti di Como. Ecco, cosa proponete voi per recuperare efficienza e passione in chi lavora e quindi nella macchina comunale nel suo complesso? Io penso che sicuramente l'organico del Comune di Como è molto consistente, e proprio perché è consistente io credo che all'interno non possa non avere delle risorse di qualità da selezionare e da valorizzare adeguatamente. Sicuramente va fatto partire, e non è semplice, perché rimettere in movimento delle macchine che si sono un po', diciamo così, arrugginite è un processo molto difficile in termini di gestione personale, ma io penso che si possa puntare sulla passione delle persone. Do un dato molto semplice: il nostro gruppo di lavoro ha potuto beneficiare di contributi su vari aspetti predisposti da alcuni uffici del Comune di Como in maniera quasi anonima, insomma proprio come riflessione di gruppo. Quindi tipo anonima, che vuol dire non c'era il desiderio di mettersi in mostra o altro, ma sono proprio la testimonianza del fatto che la voglia di far bene il proprio lavoro, insomma, la gente normalmente ce l'ha, perché bisogna saperla appunto coltivare. Allora il ragionamento delle competenze, delle capacità riguarda soprattutto la fascia dirigenziale, che deve essere selezionata e deve essere poi riconosciuta proprio in funzione della capacità di portare dei risultati e di sapere coinvolgere i propri più diretti collaboratori in un percorso virtuoso. Io ho lavorato come responsabile del personale in più di un'organizzazione, e devo dire che fare appello all'impegno dei dipendenti pubblici è più semplice, perché la gente è chiamata a darsi da fare per un obiettivo, che è quello del benessere collettivo, che è più facilmente percepibile di quello di far fare fatturato alla propria azienda. Bisogna impegnarsi, occorre un vertice politico che dia degli obiettivi molto chiari e che abbia dei comportamenti coerenti, e occorre una classe dirigente all'altezza. Gli altri, secondo me, hanno voglia anche di stare meglio anche sul posto di lavoro. Sempre più bello che che annoiarsi, buona grazie. Grazie, grazie Gisella Tozzi. Grazie, grazie Gisella. L'immagine che deve uscire da questi lavori è di un comune innanzitutto aperto ai cittadini e soggetto attivo nel favorire l'insorgere di sinergie. Dalle situazioni difficili si può uscire solo se si riescono a valorizzare, a far scaturire dalla città tutte le risorse che la città ha, e sono molte. Questo sia a livello di soggetti esterni al comune, sia a livello di persone che operano all'interno del comune. E questo è un percorso indispensabile per supportare qualsiasi altra attività. Andiamo al nostro territorio, al paesaggio. Noi abbiamo straordinarie risorse in termini territoriali, in termini ambientali e paesaggistiche. L'aria che respiriamo, la nostra relazione con l'acqua, che dovrebbe essere quasi simbiotica per la storia che abbiamo, il verde che abbiamo intorno, hanno sofferto e soffrono in questi anni in modo molto pesante, e soffrendo loro soffriamo noi, soffrono i cittadini. Consumo di suolo sconsiderato di questi ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Il tema della mobilità è un tema importante da affrontare. Alberto Bracchi. Sì, Alberto Bracchi. Una prima domanda è questa, mi vorrei proprio ricollegare a quello che diceva adesso Mario Lucini. Almeno fino a prima che ci fossero le paratie, perché oggi diventa un po' difficile guardare il lago, ma chi veniva a Como aveva questa immagine un po' da cartolina, no? Del resto abbiamo visto anche delle immagini prima che sono state proiettate, queste colline, questo lago, verde attorno, eppure non tutto quello che splende, diciamo, apparentemente poi è vero. Perché? Perché ci sono sicuramente in molti momenti diciamo dell'anno i livelli di CO2 e polveri sottili superano i parametri diciamo stabiliti per legge, i parametri di qualità. Il consumo del verde in questi anni ha prodotto una sorta di depauperamento del patrimonio cittadino. Fare il bagno qui davanti nel lago di Como diciamo è praticamente un sogno, un ricordo più che un sogno. Per la rete fognaria da completare, ecco, si può secondo te arrestare questa china pericolosa per la salute dei comaschi? Perché quando parliamo di ambiente parliamo in primo luogo di salute. Si deve, non si può, è ovvio. Buonasera a tutti. Innanzitutto premetto che sono il portavoce, sono stato e sono il coordinatore del gruppo Territorio Ambiente, ma sono il portavoce di oltre 30 persone che hanno lavorato, per cui il mio compito è tirare una sintesi e essere anche molto sintetico stasera per lasciare spazio a voi su tutti i temi che abbiamo trattato, che sono tanti e complessi. Si deve, dicevo, anch'io mi vedo la persona. Mario all'inizio del suo percorso ha parlato di centralità della persona, giustamente. Mi vedo la persona che arriva a Como, che sia il turista, che sia il cittadino residente, che dice: ma che bella città, soprattutto quello che viene da fuori, che bello, che bel paesaggio, che bel lago. È vero, peccato che lo vediamo anche in questi giorni, il cielo è grigetto, non è azzurro, è primavera, ma è grigio. Certo, non dipende solo da noi, dipende da tutto quello che ci arriva con la Brera da sud, dall'Interland di Milano, ma lo sappiamo che quest'area non è pulita. Il nostro lago soffre, lo vediamo oltretutto anche qui per problemi ovviamente più grossi di quelli che riguardano la città. Non piove da tempo, per esempio, il lago cala, ieri sentivamo dire che comincia a servire acqua per irrigare le pianure, le coltivazioni. Se si abbassa troppo il lago, altro che esondazioni, tra virgolette, si sgretolano le rive, per cui quello che è il nostro paesaggio davvero bello e importante si sta sgretolando, si sta impoverendo via via, e non è, l'effetto non è visibile, a prima vista. Hai toccato con queste domande i tre temi naturali per eccellenza, cioè l'acqua, l'aria e il verde. Cosa possiamo fare? Innanzitutto l'acqua, chi ha lavorato nel gruppo, cito in particolare in questo caso, mi piace anche dire i nomi, Cesare Pavone e Di Borgianni, hanno inventato lo slogan pulita dentro e bella fuori, ovvero l'acqua pulita come risorsa. Scusate, vado anche sugli appunti perché ho talmente tante cose che magari mi confondo. L'acqua da vivere, l'acqua da fruire in tutti i modi. Per cui da una parte le azioni che possiamo fare è renderla sicuramente pulita completando il collettamento alla fognatura. Ci sono 10.200 utenti ancora non collegati, cittadini non collegati. Si è fatto qualcosa in questi anni, non si può dire che siano stati fermi, ma bisogna completare la cosa in modo che l'acqua che arriva alla fine al lago sia davvero pulita. Obiettivo anche è rendere balneabile il primo bacino del lago. Non è soltanto un obiettivo nostro, se ne è già parlato in anni passati, ma di fatto oggi ancora chi è che osa fare il bagno nel primo bacino del lago? Dico di più, aggiungo una cosa che è venuta fuori nel pur parlare, magari non c'è nelle schede, sempre nel rispetto dell'elemento naturale acqua del lago potremmo pensare di ridurre la navigazione a motore sopra certi limiti, sopra certe potenze, come hanno fatto certi laghi. Io sono un velista, per cui questa causa la sposo in pieno, chiaramente. Poi c'è l'acqua che consumiamo e che beviamo, allora quella deve essere ovviamente pulita, ne abbiamo abbastanza tanta di acqua, e dobbiamo comunque sicuramente ridurre i consumi, si dice ridurre l'impronta idrica del consumo. E dulcis in fundo, ma è la cosa più importante, l'acqua il più possibile o totalmente pubblica, di gestione pubblica. Qui si può aprire un argomento, una discussione su vari aspetti, magari nelle domande verrà fuori, cioè se è davvero possibile perseguire l'acqua pubblica. L'aria, il discorso è semplice, tra virgolette. L'obiettivo che ci siamo posti è in 5 anni di rientrare nei parametri europei. Dico che è ridicolo quello che è stato fatto in questi anni, una giornata, una tantum senza le auto, di domenica, cioè non si è mai affrontato il problema alla radice. Gli argomenti fondamentali sono due: diminuire il traffico automobilistico, che è una delle fonti di inquinamento, per cui agire su quello, dopo lo vedremo nel pezzo sulla mobilità, e agire sui riscaldamenti. Anche qui sul discorso dell'energia c'è tutta una pagina da aprire: diminuire i riscaldamenti, consumare di meno, per cui emettere meno emissioni. Semplice. Terza cosa, incrementare, e questa è un po' la conclusione del mio discorso di questa parte, incrementare il verde. Sappiamo che il verde purifica l'aria, ci aiuta a respirare. Il verde è il grande mantello che contribuisce sia all'aspetto paesaggistico della città, è il grande contenitore, il grande tessuto connettivo. Oggi è impoverito e frammentato dal verde di vicinato, di quartiere, al verde dei parchi periurbani, non è continuo. Invece il verde deve diventare davvero una struttura continua in tutti i suoi aspetti. Cito in particolare anche, oltre agli aspetti naturali, le aree verdi in cui i nostri bambini possono giocare, cioè quelle di quartiere. È un tema caro al percorso che abbiamo fatto noi nella nostra associazione La Città Possibile, e città come poverissima di questi spazi piccoli di quartiere per il gioco. Di rifiuti, come di gestione dei rifiuti, come non possiamo certo dire che brilli tra i comuni cosiddetti cicloni del nostro paese. D'altra parte, poi la gestione dei rifiuti è differenziata, così per modo di dire, complice anche un appalto che si trascina di proroga in proroga. Poi c'è la grande sfida che hai accennato, quella del risparmio energetico. Sappiamo che dopo Kyoto il risparmio energetico è diventata una delle priorità che non solo a livello europeo ma in modo diffuso ormai viene posto per chi deve amministrare una città. L'hai detto tu stesso prima, c'è il tema del trasporto e quindi della mobilità e quindi delle auto, ma c'è anche il tema della ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che sicuramente è particolarmente energivoro. Consideriamo che una statistica dice che tra un edificio in classe G e un edificio anche soltanto in classe B c'è un consumo che in termini energetici che è di 7-1, quindi stiamo dicendo veramente grossi problemi. Gli stessi problemi che hanno le abitazioni ce l'ha anche il patrimonio il patrimonio pubblico, il patrimonio degli edifici pubblici, pensiamo alle scuole, pensiamo a tutti gli altri uffici pubblici. Ecco cosa, quindi è un problema sicuramente importante da affrontare, ma può essere anche un'opportunità, no? Certamente. Comincio dal discorso dei rifiuti, anche se il grande esperto qua dentro, qua sopra, è Bruno Magatti. Sa tutto lui sui rifiuti, volendo se fate delle domande vi risponderà lui. Il concetto è questo, non è la raccolta differenziata a Como, di fatto è fallita. Soprattutto il sacco viola. L'appalto, come ha detto il mio intervistatore, è stato prorogato più di una volta alla stessa ditta e non si è preso in mano con forza, rinnovando con un bando nuovo quella che dovrebbe essere la gestione seria della raccolta differenziata. Allora il nostro obiettivo è quello di in 5 anni di avviare una vera raccolta differenziata degna di una città moderna, secondo ovviamente tutti i criteri che adesso non sto ad elencare, che sono specifici, di una raccolta differenziata che riduca alla fine al minimo indispensabile i rifiuti che vengono conferiti all'inceneritore. Mi piace dire che i cittadini andrebbero sensibilizzati e secondo me sono già pronti a questa che deve essere una grande impresa collettiva. Se organizzata e gestita bene, tutti dobbiamo sentirci partecipi di questo programma. La prima cosa da fare, si è detto nel nostro gruppo, è per il nuovo sindaco, cioè per Mario, che do per scontato vincitore naturalmente, facendo i debiti scongiuri per chi è scaramantico, è riaffidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Per quel che riguarda l'energia, lo slogan è consumare meglio e consumare meno. Lo slogan e il contenuto c'è ovviamente, andare diciamo verso un'energia intelligente, cioè consumare meglio per consumarne meno. Abbiamo degli edifici, a partire dagli edifici pubblici, che sono dei colabrodi in termini energetico. Basta pensare alle scuole, temperature assurde, 23-24 gradi e enormi dispersioni. Tutti ci siamo passati, come allievi o come genitori, e ce le ricordiamo. Per cui prima cosa davvero è agire sull'edificato, sull'esistente, a partire dagli edifici pubblici, per arrivare fino a una seria politica di risparmio energetico nella costruzione dei nuovi edifici, ovviamente con incentivi economici dove possibile. Aumentare quindi l'efficienza globale dell'energia. L'obiettivo che ci siamo posti alla fine è anche di portare l'energia proveniente da fonti rinnovabili realisticamente, perché nessuno pensa ai grandi sogni irrealizzabili, in 5 anni al 10% del fabbisogno totale di energia. Oggi siamo intorno al 4%. Vabbè, poi volendo abbiamo un sacco di punti sul come fare. Ci arriveremo. Ci arriviamo successivamente. Ecco, abbiamo parlato già del tema del verde, ma anche dobbiamo parlare del tema di questi grandi buchi che ci sono nel tessuto urbano cittadino, aree dismesse, in molti casi su cui si è pensato, l'amministrazione uscente ha pensato a magari progetti faraonici, poi arenatisi e bloccatisi. Quindi la Ticosa è l'esempio, diciamo, che è cattivo esempio da questo punto di vista. Con che tipologia di insediamenti pensate di poter andare a intervenire su questi grandi buchi vuoti per, non so come dire, ricreare un tessuto, un continuo urbano nella città? Allora, parto un po' a monte prima di andare da perché dobbiamo stare nei strettissimo. Quello che è venuto fuori nel nostro gruppo in modo abbastanza netto è stop al consumo di suolo vergine, diciamo così, non edificato. Ovviamente questo è un tema molto delicato che va preso seriamente con le dovute, con i dovuti accorgimenti, ovvero avviare delle scelte urbanistiche che escludano nuovo consumo di suolo. A questo punto, diciamo, agiamo sulle aree, sulle cosiddette aree dismesse o da riqualificare o spazi vuoti che siano, e come le riusiamo. Di residenze ne abbiamo già tanta. Il piano di governo del territorio in itinere ci dice che ci sono, vado un po' a memoria, non cito numeri, ma che gli alloggi esistenti oggi a Como basterebbero per altri 15 anni. Nonostante ciò incrementa di 2.800 abitanti la città. E noi diciamo appunto che, visto che c'è tanta residenza invenduta e vuota e sfitta, è lì, i numeri parlano da soli, diciamo che metteremo poca residenza, quasi o niente, nelle aree dismesse, invece le useremo soprattutto per servizi, attività economiche, attività turistiche, cultura, anche il verde, e prevedendo di lasciare libere delle aree anche per scelte future, cioè non andando necessariamente a riempire tutto, per dire, visto che non consumiamo il territorio vergine, andiamo a riempire tutti i buchi che ci sono. Ragioniamo seriamente su ogni area, soprattutto valorizzandola dal punto di vista delle altre funzioni al di fuori della residenza. Sulla residenza, cosa fondamentale, c'è una forte carenza di case a basso costo, accessibili, mentre invece ci sono tanti alloggi costosissimi che non sono accessibili alle famiglie giovani, per esempio, per cui la grossa scommessa è dire: sblocchiamo questa cosa, creiamo dell'housing sociale, come si usa dire, a disposizione anche dei meno abbienti, trovando anche incentivi economici o accordi con le imprese, con le banche, per sbloccare questa situazione, e ovviamente con le leve fiscali. E poi ovviamente c'è tutto il tema della locazione, perché un altro capitolo importante deriva incentivato. Ultimo aspetto, il tema della mobilità. Como, come del resto in questo caso la maggior parte delle città, rischia di essere un po' soffocata dal traffico veicolare. Cosa proponete? Più strade e più parcheggi o un modo diverso di vivere la mobilità? La risposta è quasi scontata. Tra l'altro il tema mi è particolarmente caro, perché credo che il diritto a muoversi insieme a quello di mangiare e delle altre funzioni vitali sia un diritto che deve valere per tutti, soprattutto per i cosiddetti utenti deboli della strada. No, strade e parcheggi, io non dico no secco, ovviamente, dove serve si farà anche qualcosa, però puntiamo a cambiare il modo di muoverci, cioè è finita l'era dell'auto ad uso privato, sta finendo da sola, perché si autoestingue per forza, perché anche se non sembra ancora, perché le auto diventano sempre più grosse, occupano sempre più spazio. Siamo per la mobilità dolce, cosiddetta, ovvero in bicicletta. C'è una fortissima domanda di comaschi che vogliono andare in bicicletta, solo che oggi davvero rischiano la pelle, perché non ci sono, non dico le piste ciclabili, ma i percorsi ciclabili o le zone dove andare tranquillamente in bicicletta senza rischiare di essere investiti. Andare anche a piedi, usare il trasporto pubblico ovviamente deve diventare più articolato, più efficiente, più confortevole, ma usarlo di più. È chiaro che finché non si risponde alla domanda di mobilità con dei mezzi che funzionano alternativi all'auto, la gente continuerà a venire in città in auto. La politica della sosta è fondamentale, perché dove io metto un parcheggio ci va un'auto, per cui le regole lì sono mai chiare da anni, dalle esperienze europee fatte nell'ultimo trentennio, ovvero parcheggi garantiti per i residenti in centro, parcheggi pochi a rotazione per l'accesso ai servizi essenziali, che ci auguriamo però che vengano anche un po' decentrati, parcheggi di interscambio, via via che si va fuori verso la città, liberi, non a pagamento, in modo da incentivare l'ingresso in città con altri mezzi. E magari un collegamento tra le due linee ferroviarie, perché questo... Sull'aspetto, ecco, mi sono dimenticato di citare l'uso urbano delle tratte ferroviarie, ovviamente qua un discorso tecnico molto complesso. Abbiamo comunque un piano del traffico che è valido, che sta lì, è un po' da aggiornare, ma non è stato attuato come di dovere, che va aggiornato, va ripreso, e chi è competente, chi l'ha fatto, sa come muovere le pedine della mobilità. Non siamo solo noi a dirlo. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Questi sono ambiti vitali per la città e tra l'altro fanno parte di quelle cose che gioco forza saranno oggetto di alcuni tra i primi atti della prossima amministrazione, perché proprio su questi tre ambiti vitali, la gestione dell'energia, il trasporto pubblico e la gestione dei rifiuti, entro la fine dell'anno prossimo dovranno essere fatti nuovi bandi, quindi sono una chiave importantissima per introdurre modifiche sostanziali per fare un salto in avanti dal punto di vista qualitativo alla vita dei nostri cittadini. E proprio in questo ambito, ricollegandomi anche a quanto diceva Gisella, ci sono spazi interessantissimi e importantissimi per dare respiro alla scarsa finanza degli enti locali, perché i bandi nazionali e comunitari su questi ambiti sono moltissimi, molto interessanti e cospicui. Da qualche giorno fa è stato pubblicato il bando per il Fondo Kyoto sulle energie rinnovabili, con 600 milioni di euro sul territorio nazionale a disposizione per progetti. Il problema è che Como fino ad ora ha fatto ben pochi progetti, per cui un'altra cosa fondamentale è quella di farsi trovare pronti con dei progetti credibili, efficaci e finanziabili per accedere anche a queste risorse, visto che l'ente locale ne ha poche. Perché senza essere pronti su questi ambiti tutto diventa più difficile. La cultura è la nostra storia, la nostra identità. Promuoverla, trasformarla, arricchirla. Silvio Magni. Sì Silvia, chi conosce Como sa che la città dispone di un patrimonio artistico e culturale straordinario, eppure in questi anni parlare di cultura Como ha voluto sostanzialmente dire parlare delle grandi mostre che sono state promosse. Ecco, secondo te dove sta la vera identità di Como? Intanto buonasera a tutti. Sì, è vero, si è parlato in questi anni soprattutto di grandi mostre a proposito della cultura Como. Intanto una piccola parentesi, rispetto alle grandi mostre siamo convinti che in parte nel male e nel bene comunque abbiano dato visibilità alla nostra città. Sicuramente le grandi mostre però non possono essere o costituire l'unico diciamo così, appuntamento culturale della città. Nei lavori del nostro gruppo abbiamo sottolineato in più riprese la ricchezza della nostra città e la necessità di valorizzare quanto di bello esiste a Como. Credo che al di là appunto delle grandi mostre la prossima amministrazione comunale dovrà insistere su in due ambiti. Innanzitutto la valorizzazione delle realtà culturali che operano magari in silenzio, che non godono della visibilità di cui hanno goduto queste grandi mostre, ma che svolgono un lavoro fondamentale di formazione, di educazione, ricreativo in quelle parti della città dove magari è anche più difficile accedere alla cultura, e penso soprattutto alle associazioni culturali delle periferie. La nostra intenzione è quella di valorizzare queste realtà e soprattutto di coordinare la loro azione. Riteniamo che una consulta della cultura sia lo strumento indispensabile per poter agire in modo corretto. L'altro fronte, dicevo, quello della valorizzazione non solo delle persone che agiscono e che fanno cultura, ma anche dei luoghi, degli edifici, della ricchezza. Ci siamo resi conto che molto semplicemente per il cittadino comasco, per il turista che arriva, è difficile a volte capire dove muoversi. Tante sono le ricchezze di questa città, basterebbero magari delle indicazioni, quindi una cartellonistica attraverso la quale cogliere appunto questi percorsi tematici anche molto diversificati, dalla protostoria per passare al medioevo, il romanico, il neoclassicismo fino ad arrivare al razionalismo, per poter iniziare a valorizzare davvero quanto la nostra città possiede. Abbiamo parlato di grandi mostre, noi ci siamo soffermati, abbiamo riflettuto un po' sul destino e la vocazione di Villa Olmo, che attualmente ospita appunto queste grandi mostre. Riteniamo che Villa Olmo, gioiello della nostra città, debba poter essere visitata durante tutto l'anno e non solo quando si passa appunto tra una sala e l'altra, per cui viene apprezzata anche molto, molto velocemente. Cercherò di essere rapida, poi magari se ci sono richieste ulteriori ci sarà tempo dopo. Abbiamo pensato che sia importante anche riuscire ad innovare, quindi non solo la valorizzazione dell'esistente, ma proporre anche qualcosa di nuovo. E anche in questo caso ci siamo resi conto che la fortuna della nostra città è quella di, diciamo così, appunto, possedere in qualche modo già un marchio che la possa rendere riconoscibile in Italia e nel mondo. In realtà sono due questi marchi ed è bastato guardare al nostro passato per poter proporre qualcosa che rilanci Como verso il futuro. Il cittadino più illustre di Como, che è Alessandro Volta, e a questo proposito la proposta che è maturata nel nostro gruppo di lavoro è quella di costituire un museo della luce. Le ultime celebrazioni voltiane non hanno lasciato nulla di concreto, segni nella città. Ci piacerebbe invece intanto rendere omaggio a questo illustre concittadino e far sì che il ricordo di Alessandro Volta possa in realtà offrire anche un'occasione di crescita culturale, ricerca scientifica, quindi di arricchimento anche economico, perché no, della nostra città. L'altro grande marchio, diciamo così, senza inventarci niente di nuovo, è il razionalismo. Anche in questo caso abbiamo pensato al recupero di un edificio che si libererà, speriamo a breve, perché appunto l'ASL si trasferirà nella cittadella sanitaria dell'ex ospedale Sant'Anne, quindi il recupero dell'edificio che si trova dietro la Casa del Fascio per costituire un centro di studi sul razionalismo. Como è la sede del razionalismo europeo, perché non sfruttare questa caratteristica? Si tratta evidentemente di progetti di ampio respiro, ma ci siamo permessi anche di guardare molto, molto in là nel... E credo che bisogna farlo. A Como ci sono ben due università, ma qual è il rapporto tra l'università e la città? Esiste un dialogo tra l'università e la città, o occorre andare a ripensarla, ricostruirla, fare in modo che davvero possa nascere o possa svilupparsi maggiormente un rapporto osmotico e quindi di un rapporto più univoco, di dare e avere, di stimolo reciproco tra università e città? Allora, la situazione dell'università in città è insomma piuttosto confusa, diciamo, anche dal punto di vista delle strutture. Sicuramente è indispensabile recuperare questo rapporto con l'università a Como. Tra l'altro lo ricordava giustamente prima anche Gisella nel suo intervento. Recupero che è possibile attraverso una partecipazione più incisiva del comune negli organismi di governo degli Atenei, quindi nel Politecnico e nell'Insubria, così come in tutte quelle altre associazioni che vorrebbero promuovere la presenza dell'università in città, Univercomo per esempio e il Centro Volta. Questo per quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione comunale. Cosa tanto più doverosa se pensiamo appunto a quanto l'università ha da offrire alla nostra città, intanto in termini di formazione, per cui per molti giovani comaschi avere l'università in città ha voluto dire non recarsi fino a Milano, in termini oltre che formativi, culturali. L'università può sicuramente collaborare con il comune per esempio l'organizzazione di temi o di convegni su argomenti specifici. In realtà questo già avviene, purtroppo però non c'è questa collaborazione stretta e anche questa volontà da parte, non c'è stata quantomeno questa volontà da parte dell'amministrazione comunale di valorizzare questa presenza. Per quanto riguarda poi, dicevo appunto, della frammentazione anche delle sedi, è stata approvata su proposta delle minoranze una mozione con la quale si invita l'amministrazione comunale a favorire, diciamo così, la concentrazione delle sedi universitarie in due aree che sono già più o meno identificate, che sono, diciamo così, due campus, quello umanistico di Sant'Abbondio e quello scientifico invece di Via Valleggio, della zona dell'ex ospedale psichiatrico. Quindi c'è questa intenzione, c'è questa volontà, bisogna evidentemente continuare a lavorare. Ritengo fondamentale anche in questo caso, così come già detto per la cultura, la collaborazione con ovviamente appunto gli organismi di governo e con anche gli studenti, quindi le associazioni degli studenti, che sono molto numerosi e tra l'altro sono molti anche gli stranieri presenti in città, quindi anche davvero un desiderio di lavorare insieme. Passiamo al turismo. Como nell'immaginario collettivo ha sempre rappresentato una meta privilegiata per un turismo d'élite, ma è l'unica possibilità, l'unico tipo di turismo che Como è in grado di offrire, o come proposta avete altri percorsi da suggerire? Allora, la riflessione che noi abbiamo fatto a proposito del turismo è stata questa. Allora, sicuramente non possiamo pensare a Como come alla Riviera Romagnola. Mancherebbe. Quindi ed escludersi un turismo di massa. Anche perché poi non c'è la balneazione cinese. Sarebbe anche un po' difficile. Quindi abbiamo parlato di turismo d'élite, volendo indicare con elite questa differenza, insomma, rispetto ad altre zone del nostro paese. È chiaro però che riteniamo doveroso anche consentire a altre fasce, diciamo così, di turisti la possibilità di fermarsi nella nostra città e di conoscerla. Per cui sicuramente questa intenzione c'è. È chiaro che bisogna magari riuscire a favorire forme di ricettività diverse. La gran parte degli alberghi, la maggior parte degli alberghi di questa città, insomma, non sono proprio accessibili a tutti. E ci è sembrato che proporre forme di accoglienza diverse come bed and breakfast o affittacamere potesse essere una soluzione. Soprattutto perché si tratta di una possibilità che intanto andrebbe incontro alle esigenze di un'altra parte dei turisti, insomma appunto magari le famiglie oppure i giovani per esempio, e allo stesso modo potrebbe anche costituire un'occasione di crescita e di sviluppo della città. Vorrebbe dire utilizzare un patrimonio immobiliare magari inutilizzato e comunque creare economia e favorire anche lo sviluppo economico della città. Mi permetto anche in questo caso un piccolo inciso. Chiaramente perché per favorire anche la presenza dei turisti in città è chiaro che il comune deve essere presente laddove ci sono tutti gli attori del turismo. Spesso Como è l'amministrazione comunale è mancata e ci vuole anche una collaborazione con tutti gli altri comuni che si affacciano sul lago. Como è città capoluogo, si affaccia sul lago insieme a tante altre località visitate da turisti. Bisogna favorire appunto la comunicazione e la collaborazione tra queste diverse realtà. Ultimo tema del gruppo di lavoro che avete affrontato è quello dello sport. Ora sicuramente Como ha una pratica sportiva diffusa, ci sono molte società, ci sono molti cittadini di età diversa che praticano attività sportive. Il problema è che mancano le strutture, o meglio, le strutture ci sono, ma sono un po', sono come una nobile decaduta, un po' mostrano le rughe del tempo. Cosa proponete a questo proposito? Intanto direi proprio vero e proprio degrado in alcuni casi, per cui la situazione è piuttosto drammatica. La proposta è quella, vabbè, intanto di segnare una differenza rispetto a chi ci ha preceduti. Parlo già come strada, certo. Certo. Quindi di segnare questa differenza, la passata amministrazione ha... Scusa, avendo applaudito immediatamente vuol dire che sono tutti attenti, quindi questo è un dato estremamente positivo, vuol dire che ci sono ancora addormentati e non li stiamo annoiando. Dicevo, quindi segnare una differenza con chi ci ha preceduti, perché questa amministrazione, la passata amministrazione, ha preferito puntare su grandi progetti faraonici, che peraltro sono... insomma rimasti sulla carta, ovvero non hanno ancora visto una realizzazione. Penso in particolare al villaggio dello sport di Muggiò. Contemporaneamente, contestualmente, è stata trascurata la manutenzione ordinaria delle strutture sportive cittadine, così come delle palestre di molte scuole. È evidente che bisogna restituire queste strutture alla popolazione, a chi fa sport e alle società sportive. È anche vero però che bisognerà investire grandi risorse, ripeto, perché è mancata questa manutenzione ordinaria e gli interventi ora sono, insomma, devono essere consistenti, considerevoli. Penso per esempio, vabbè, probabilmente sapete tutti, insomma, la situazione della zona di Via Belvedere, del Campo Coni, della piscina di Muggiò, così come del palazzetto, del Palazzo del Ghiaccio, insomma, che negli ultimi mesi se ne è parlato moltissimo. Quindi la necessità di recuperare queste strutture. Soprattutto se vogliamo appunto che le società sportive possano operare e svolgere un'importante funzione di prevenzione, per esempio, del disagio giovanile, ma semplicemente anche di offrire occasioni di svago per tutte le fasce di età. Abbiamo pensato per esempio in questo contesto anche ad un recupero, una valorizzazione dello stadio Sinigaglia e al desiderio di restituirne una funzione di... diciamo così, di area sportiva per la città, tra l'altro vicina alla zona dei giardini a lago, per cui poi non so, magari se Alberto ha intenzione di recuperare l'esatto, e quindi garantire l'accesso agli spazi alle società sportive, sicuramente questo. Grazie a voi. Grazie Silvia, tra l'altro sull'ultimo argomento, sul discorso delle strutture pubbliche, riagganciandomi anche con quanto diceva Alberto sul recupero delle aree dismesse, sul non fare solo residenza, una delle palestre più decenti che ci sono in città è quella sorta ormai diversi anni fa in via Giulini, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione, di recupero di un'area dismessa, per cui con la scarsità di risorse che ci sono, anche queste occasioni di riqualificazione possono essere utilizzate senza impegno diretto di risorse ingenti per dotare di strutture sportive più efficienti la città. La città che è la città delle persone, l'abbiamo detto, è sempre stato il punto di partenza, quindi l'amministrazione di una città vuol dire partire dalle persone, dai loro diritti, dai loro bisogni specifici e primari, e quindi ne parliamo con Bruno Magatti. Sì, Bruno Magatti. Allora, nel vostro programma, giustamente Mario diceva, si parla di città delle persone quando si parla di servizi sociali o servizi alle persone, e non c'è un approccio che per molti versi è l'approccio, se vogliamo, più classico, più tradizionale, ma anche più scontato. Interventi per, non so, i giovani, le donne, gli anziani, i bambini, i portatori di handicap, eccetera. Qual è la ragione di questo approccio diverso? Buonasera. Allora, questo approccio è esito del lavoro di questo gruppo, che non ha ritenuto di andare a seguire quella che è l'impostazione convenzionale, ci sono gli anziani, i minori, i disabili, le povertà, gli stranieri, ma mi pare che per sintetizzare il lavoro bisogna dire che l'atteggiamento è stato quello di far esprimere un pensiero. Credo che dobbiamo dirci subito che se aprissimo il bilancio del comune di oggi troveremmo grandissime risorse effettivamente spese per l'intervento sociale, eppure noi abbiamo tutti la sensazione che il problema esiste. Il problema esiste perché non c'è un pensiero, o meglio c'è un pensiero che ha portato a frantumare la nostra società, a immaginare che qui si giochi una partita ciascuno per conto proprio, un tutti contro tutti. Quindi il primo elemento che mi sembra emerga dal lavoro che abbiamo fatto in queste settimane passate è quello di rimettere dentro questa nostra città un pensiero. Rimettere un pensiero che faccia intendere che l'intervento sociale non è quella cosa destinata allo sfortunato, allo straniero, a chi vive ai margini della società o chi c'è caduto, ma è un atteggiamento, come dire, da portare metodologicamente all'interno dell'azione amministrativa, cercando innanzitutto di evitare che nuove situazioni precipitino là dove poi possono essere soltanto soccorse, quindi un lavoro genericamente definibile di prevenzione, ma soprattutto tentare di capire che la spesa sociale non è da immaginare come un costo, ma sostanzialmente come un investimento. Tra l'altro, se voi pensate anche al dibattito non soltanto locale, oggi del tema politico, sembra che il welfare debba essere rivisitato e riscritto proprio perché viene vissuto da tutti come un costo, costa troppo. Però se voi andate a leggere, ve lo consiglierei, c'è un librettino fatto molto bene da alcuni studiosi, esco un attimo dal mio seminato, sul tema della sanità, voi scoprite una cosa che prima di aver letto il libro già sapevate, ma che poi lì viene documentata e confermata, che l'unico modo per risparmiare nella sanità è fare dell'ottima sanità. Cioè, se io faccio gli esami giusti, gli interventi giusti, le cose giuste, non spedisco una persona a spasso a spendere soldi inutilmente, a fare delle cose addirittura controproducenti, ecco che allora alla fine non solo ho fatto ottima qualità, ma ho anche speso meno. Questo è un approccio mentale che va messo in campo rispetto a tutto l'intervento sociale. Se noi immaginiamo di alzare la qualità dell'intervento, noi siamo sicuri che questo comporta alla fine non solo un risparmio sociale, ma nei tempi ovviamente non immediati anche un risparmio economico. Quindi questo è l'approccio che ci ha portato come gruppo di lavoro a non settorizzare la riflessione, ma a vedere alcuni obiettivi di carattere generale, che sono ovviamente legati a costruire reti, ad ascoltare i bisogni, a dare risposte di qualità, a promuovere la socialità. Questo ovviamente come tematica generale. Poi più concretamente è chiaro che noi tutti comaschi sappiamo che per esempio esistono oggi nella nostra città alcune migliaia di persone che vengono da altri mondi, da altre culture, da altri pianeti, e noi abbiamo alle spalle delle amministrazioni che si sono fatti forti di per esempio rendere difficile l'accesso al diritto di culto, per dire una piccola esperienza che possiamo verificare tutti i venerdì. Ecco, come prima diceva Mario Lucini, vogliamo ridare, risvegliare l'anima di Como. Quindi Como ha un'anima da questo punto di vista, perché magari potrebbe sembrare che, soprattutto per chi non la vive dall'interno, non la conosce dall'interno, sia una città un po' chiusa, con un po' di barriere magari culturali, prima ancora che architettoniche. Beh, allora adesso noi siamo diventati famosi per un muro, però su questo muro a me piace fare un'osservazione. Quando per anni alcuni di noi hanno raccontato in giro che lì sarebbero cresciuti dei muri, in realtà non ci ha creduto nessuno. Le persone si accorgono del muro quando stanno davanti al muro, quando sono dietro al muro. Questa è anche una situazione che riguarda il problema sociale. Cioè noi ignoriamo la sofferenza e la ferita che alcuni sperimentano nel loro quotidiano semplicemente perché la consideriamo estranea a noi. Poi a ciascuno di noi può capitare nella propria storia di trovarselo questo muro davanti e ovviamente di capire che con questi muri non andiamo lontano. Il problema è che chi si candida, come stiamo facendo tutti insieme, per amministrare una città deve dire che la consapevolezza del muro non è necessario che ti arrivi dinanzi, noi ci facciamo interpreti dei muri che ci sono attorno a noi. e noi abbiamo immaginato nel percorso fatto nelle settimane passate che proprio si riesca non soltanto a promuovere risposte standardizzate, che è quello che in questo momento fa l'amministrazione, di fronte a un bisogno ti dice questa è la risposta. Noi abbiamo capito, e lo stiamo capendo anche nelle nostre vite quotidiane, che in realtà la risposta standardizzata è in grado di offrire alcune risposte, ma non necessariamente le risposte giuste, e che probabilmente anche queste risposte standardizzate non sono necessariamente le più convenienti. In altre parole, in una situazione in cui le risorse, ed è stato detto, ma giusto per quantificare, nel bilancio di questo anno che l'amministrazione corrente non ci ha portato all'approvazione in Consiglio Comunale, per cui rimane nascosto da qualche parte, noi sappiamo che c'è ogni mese 1 milione di euro in meno di risorse. Voi capite che questo 1 milione in meno di risorse significa una grande fatica a rispondere a grandi bisogni che invece interrogano ciascuno di noi. Allora, noi non potremo, e lo dobbiamo dire oggi, dare a tutti la stessa risposta. Noi dovremo dare delle risposte proporzionate al bisogno dentro una logica di risorse che sono quelle disponibili, chiedendo ai cittadini, ovviamente, che possono farlo, di partecipare alla spesa per alcuni servizi a domanda individuale. E questo problema delicatissimo della compartecipazione alla spesa pone subito nel retro del nostro pensiero l'idea del furbetto, insomma, di quello che sarebbe in grado di concorrere a questo servizio con delle risorse che in realtà si nasconde e si trincera dentro meccanismi che lo tutelano. Noi dobbiamo dire con grande serenità che faremo del nostro meglio affinché questa cosa non accada, affinché tutti siano chiamati a contribuire, ma non soltanto con un'operazione, come dire, drastica di controllo, di verifica, che peraltro dovrà essere fatto, ma soprattutto costruendo questa cultura di consapevole necessità di una solidarietà che alla fine paga tutti. La solidarietà non è soltanto un meccanismo con il quale chi sta bene lascia cadere qualcosa su quello che sta facendo per chi. È la cultura di una società che si accorge del bisogno di quello che gli sta accanto. Se noi riusciamo a far muovere tra di noi e tra i nostri cittadini questo rovesciamento dell'approccio, che il poveraccio sei tu domani, tra virgolette, perché ahi noi gli accidenti sono dietro l'angolo, allora tu capisci che sei disposto a farti carico di questi costi per gli altri oggi, nella prospettiva che se domani dovesse capitare anche a te, questa solidarietà sarà spesa per te. Credo che questo passaggio culturale sia l'elemento che sta dietro. Poi, se posso andare avanti di slancio, c'è il problema del metodo. Il problema del metodo è un problema che ci pone il fatto che il comune, l'amministrazione, è in grado di dare alcune risposte. Prima vedevo qualcuno davanti che si stupiva delle circa 1000 persone che sono dipendenti comunali, ma molte di queste persone sono impiegate nei servizi, e in servizi che sono servizi importanti di qualità, pensate ai nidi, dove c'è impiegato personale del comune, e il servizio dei nidi è considerato da tutti un servizio di qualità. Però tutti dicono che i nidi costano troppo, si è parlato del nido di Lora, nel quale ci sono alcuni posti vuoti. Perché ci sono alcuni posti vuoti? Ci sono alcuni posti vuoti perché, per esempio, il cittadino di Lipomo che volesse mandare il suo bimbo nel nido di Lora venendo verso la città magari per motivi di lavoro non ha la solidarietà del suo comune. Il comune di Como copre parte dei costi con un'azione di supporto collettivo, il comune di Lipomo per esempio non lo fa. Allora qui si tratta di dire al comune di Como di fare il capoluogo. Fare il capoluogo significa essere capace di costruire relazioni con le amministrazioni dei comuni che stanno attorno affinché certi servizi di qualità che solo il capoluogo è in grado di mettere in campo possano essere fruiti alle stesse condizioni anche da cittadini che vivono nella cintura, riuscendo a saturare l'offerta che noi siamo in grado di dare senza penalizzare quei cittadini in maniera tale da farli fuggire da questa offerta. Ma Gatti ti sei bruciato, un bonus domanda, e quindi questo l'ultima domanda invece che ti voglio fare è questa. Cioè, abbiamo parlato di solidarietà. Solidarietà spesso va di pari passo con un'altra parola importante che è sussidiarietà. Eppure in un momento di grande difficoltà economica la tendenza può essere pericolosa, può essere quella di dire, di considerare la sussidiarietà semplicemente come un ok, scarico perché non sono in grado di fare, scarico sulla società civile, sul volontariato, sul terzo settore, perché non sono in grado di rispondere a questi bisogni. È questa la sussidiarietà a cui pensate? Provo a dare una risposta nel tempo più breve possibile. Allora, è chiaro che il welfare non si fa in prima persona. Il comune non è in grado di rispondere in prima persona a tutti i bisogni, evidente. E quindi c'è questo, chiamiamolo terzo settore, privato sociale, si può chiamare in vari modi, che è in grado di rispondere. Ma qual è il ruolo dell'amministrazione comunale? È quello della regia. E non c'è dubbio che questo sistema può funzionare se il progetto dell'intervento sociale è in mano a qualcuno. Noi riteniamo che il comune debba fare quello che non ha fatto fino ad oggi, cioè fare il regista. E tenete conto che esiste una struttura che si chiama struttura dei piani di zona, che è stata inventata qualche anno fa nell'idea che un insieme di comuni che abitano un certo territorio fosse in grado di mettere insieme risorse e coordinare l'intervento sociale in maniera tale da massimizzarne evidentemente l'efficienza. Il comune di Como nei piani di zona, anche per motivi contingenti dobbiamo dirlo, ma non ha un ruolo di attore principale, soprattutto dal punto di vista politico, non dico dal punto di vista tecnico. Poi tra parentesi diciamo che da alcuni anni non abbiamo nemmeno il dirigente, diciamo, specifico per i servizi sociali, c'è un dirigente a scavallo, una persona che copre più settori, ma questo lo lasciamo a parte. Quindi la funzione della regia che deve essere riassunta. Secondo ragionamento, qual è il tipo di relazione da mettere in campo con l'operatore di tipo privato, insomma, il cosiddetto privato sociale? Il tipo di operazione può essere quello fatto, praticato fino ad oggi, cioè io ho un bisogno, costruisco un bando, chiedo determinate risposte, chi è in grado di darmi queste risposte partecipa al bando, interviene con un costo. Noi abbiamo ragionato sull'ipotesi invece di provare ad operare in maniera diversa. Noi chiediamo un tipo di operatore con queste caratteristiche, al quale ovviamente chiediamo competenze, relazioni col territorio, storia, e che una volta scelto attraverso ovviamente un bando, che sceglie però questa volta il partner, la richiesta di questo partner diventare partner nella progettazione, quindi parliamo di coprogettazione. Questa idea della coprogettazione, che è stata sperimentata con successo per esempio nella provincia di Lecco e che sta diventando un modello interessante da riproporre, è il meccanismo che ottiene due risultati. Innanzitutto di non rendere il privato sociale semplicemente un interlocutore economico, un freddo interlocutore economico, ma un'entità che viene coinvolta nella relazione. Secondo, porta le competenze e le capacità sperimentate, perché ovviamente chi sta nel territorio rileva e misura i nuovi bisogni, può sperimentare nuove strade, è in grado di fornire all'amministrazione il suggerimento per andare nella direzione giusta. Quindi questo percorso massimizza la qualità della tipologia dell'intervento sociale che si vuole operare. Dico poi come aggiunta, ma lo dico semplicemente come passaggio prima che mi... Come chiusura. Come chiusura. Noi abbiamo immaginato che alcuni servizi debbano però restare in capo alla conduzione diretta dell'amministrazione. Adesso ritorno un attimino, ma per capirci, sul problema del nido di Lora, qual è stata la percezione che abbiamo avuto noi interagendo con i genitori del nido di Lora? La percezione della fragilità e della precarietà di un servizio sul quale è fondata anche l'organizzazione della tua vita familiare e che se ti viene meno da un giorno all'altro sconvolge tutto. Questo aggancia all'ultimo argomento, che è il sostegno alla famiglia e il sostegno alla genitorialità. Perché questa cosa possa avvenire è necessario che servizi che rendano compatibile il lavoro del padre e della madre con la cura e la tutela ovviamente dei minori, ma anche con la cura dell'anziano, con la cura della fragilità, che oggi ovviamente è solo a carico di poche persone. Grazie. Grazie. Grazie Bruno. La passione che era tua, che è quella di tutto il gruppo che ha lavorato con te, quella di tutti noi, penso che risulti più evidente il fatto che la centralità della persona non è un modo di dire, ma è un'attenzione prioritaria nostra. Attenzione alle persone vuol dire anche attenzione al futuro, e quindi, come dicevamo prima, se vogliamo pensare a una città proiettata nel futuro, non possiamo trattare i giovani come un problema e non come una risorsa. Per cui Stefano Panetti. Sì Stefano, ti abbiamo lasciato per ultimo perché sento anche il più giovane, anche se è passato... Meno cose da dire forse, eh? Meno cose da dire, meno, meno esperienza. No, perché così ti sei fatto esperienza nel frattempo, hai ascoltato tutti i tuoi colleghi dei gruppi di lavoro, ovviamente scherzo. Ecco, Como è una città su misura per i giovani. Ma guarda, mi potrebbe risponderti con due lettere, no, chiaramente. Infatti quando Mario... Più vicino al microfono perché non si sente. No, perché infatti quando Mario mi ha proposto di coordinare questo gruppo, francamente mi sono commosso, perché vedendo l'attenzione che la scorsa amministrazione ha dedicato ai giovani, dove i giovani venivano visti casomai come eventualmente come volantinatori, a volte in nero, mi sembra che si marchi una differenza sostanziale e importante, dove si dà ai giovani la possibilità di parlare, di dire qualcosa, di parlare di loro stessi, si fa un grande passo in avanti. E questo è quello che abbiamo cercato di fare col gruppo, dove sono coniugate diverse intelligenze, diverse competenze, e dove si è badato più che altro a proporre delle idee concrete per migliorare la città per i giovani, ma migliorare la città per i giovani significa migliorarla un po' per tutti. Questa non è una città per i giovani, basta vedere le occasioni che sono perse, gli spazi che o erano stati dedicati ai giovani, i cinema ad esempio tutti morti, chiusi, desolatamente, e anche altri spazi pubblici, scuole dismesse, aree dismesse che o sono ancora allo stato selvaggio oppure sono state adoperate per una edilizia selvaggia. E quindi ci sono a ben vedere edifici che da questo punto di vista possono essere rilanciati, per darmi una risposta? Sì, intanto ci sono le circoscrizioni in primo luogo, che adesso spogliate dal loro ruolo politico, possono offrire nuovi spazi per l'associazionismo, soprattutto giovanile. Ci sono poi aree che obiettivamente sono lasciate un po' così, penso all'area dell'Ippocastano, dove potrebbero essere realizzati anche delle installazioni sportive, penso a dei campi da calcetto, cosa che noi abbiamo proposto al nello scorso consiglio comunale come giovani, ma che ahimè è una proposta che insomma è caduta un po' nel vuoto. Penso ad esempio al Politeama, che non dimentichiamoci che per l'82% è in mano al comune, e il comune potrebbe fare, seguito da noi, potrebbe fare un'ipotesi di acquisto dell'intero pacchetto di quote per destinare quello stabile attività culturale ricreativa. È uscita recentemente una proposta interessante del Politecnico del Conservatorio che prevede, ad esempio, una proposta tra le tante, di fare una sala concerti per gli studenti del conservatorio e un centro di ricerca in ingegneria del suono. Questa potrebbe essere una proposta. Ma anche valorizzare e migliorare quello che già esiste. Penso alla biblioteca, che è stato per anni un fiore all'occhiello della nostra città, e adesso vive una situazione di grave degrado, sia per quanto riguarda la struttura e sia anche in parte per il servizio offerto. Non si fanno sostanzialmente più acquisti da alcuni anni di libri, di DVD e di altri materiali utili comunque ai giovani cittadini in generale. prima con Silvia abbiamo parlato delle nuove possibili strade per il turismo comasco. Credo che guardare al turismo giovanile, da sempre i giovani girano per il mondo, ecco, possa essere da questo punto di vista una prospettiva interessante. Cosa ne pensi? Ma assolutamente, come diceva Silvia, per valorizzare il turismo giovanile in città bisogna comunque cambiare la prospettiva da un turismo d'elite a un turismo, diciamo, più popolare, ma non in senso deteriore, un turismo che permetta ai meno abbienti, anche ai giovani che tipicamente non hanno risorse ingenti da spendere per viaggi o per nottamenti in alberghi esclusivi, appunto i giovani di poter accedere a bed and breakfast, ostelli, ma anche semplicemente dare la disponibilità di aree soste per i camper e per le roulotte, cose che mancano in queste città. Ma soprattutto, sempre riguardo ai giovani, bisogna fare un discorso anche sulle difficoltà logistiche per raggiungere questa città. Se pensiamo che i giovani che provengono anche da altri paesi europei normalmente raggiungono l'Italia, la Lombardia, in aereo, tipicamente con delle low cost, quindi fondamentalmente pensiamo ai collegamenti che ci sono tra Bergamo e Como, fanno spavento, effettivamente. E non solo, il ruolo dei giovani secondo me può essere valorizzato anche in un'ottica di promozione del turismo. Noi in città abbiamo tantissimi studenti stranieri che vengono a Como, ecco, questi studenti, queste eccellenze dovrebbero essere valorizzate per quasi ambasciatori. Esatto, ambasciatori della bellezza della nostra città adesso. Non c'è solo un problema per arrivare a Como, diciamo, per il turista, soprattutto il turista giovane che utilizza i mezzi pubblici. C'è anche un problema, credo, di come girare all'interno della città utilizzando mezzi pubblici o utilizzando quella che prima Alberto diceva essere la mobilità slow. E poi c'è anche un tema collegato sempre a questo, che è il tema della sicurezza. I giovani sappiamo che quando si è giovani la sera magari si fa un po' tardi, allora certo sarebbe bello se ci fossero dei servizi che aiutassero da questo punto di vista i giovani a tornare alle proprie case in sicurezza. Ecco, parto da quest'ultimo aspetto. Insomma, la scarsa offerta culturale, o comunque l'offerta culturale a macchia di leopardo che questa città ha offerto finora, sostanzialmente non offre molte opportunità ai giovani, soprattutto nella fascia serale, opportunità diverse dal recarsi in pub, discoteche, dove tipicamente si consumano alcolici. Non che questo sia una cosa deteriore, anzi, però diventa un problema di carattere sociale nel momento in cui questi ragazzi poi decidono di prendere in mano la loro macchina, il loro motorino, con gravi ripercussioni per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza in generale. Quindi anche sulla scorta di esperienze che sono state fatte in altre città come Carpi, come Reggio Emilia, bisogna assolutamente distaccare i giovani dalla guida, soprattutto nelle ore serali, e permettere loro di tornare a casa in sicurezza, e soprattutto per sé e per gli altri, ovviamente, perché gli incidenti non hanno ripercussioni solo per chi stupidamente si mette al volante in stato di ebbrezza, ma anche per chi l'incidente li subisce. E quindi prevedere magari un sistema di taxi collettivo, un sistema di taxi pubblico a tariffa agevolata destinato a una fascia di giovani, insomma, sotto i 30 anni, che permette a loro di tornare a casa in sicurezza. Collegato invece al discorso dell'università, si è parlato correttamente di un'università polverizzata nella città. Io collaboro con la facoltà di giurisprudenza, mi rendo conto che a volte faccio lezione a Sant'Abbonio, poi mi reco in ufficio in via Oriani, poi c'è la sede di via Valleggio dove ci sono gli uffici amministrativi, quindi è veramente problematico per uno studente, per un operatore dell'università, poter vivere serenamente la stessa. Quindi secondo me il comune dovrebbe farsi promotore di creare delle nuove linee urbane, e tipicamente una linea, abbiamo immaginato una linea che colleghi la stazione di San Giovanni con San Martino, passando da Santa Bogna a sede di giurisprudenza, è anche una linea che sostanzialmente copre il percorso del girone. Tra i giovani, grazie anche alla presenza dell'università, ma non solo, una parte sempre più importante è rappresentata dai giovani che provengono da altri paesi, da altre culture. Come è possibile fare rete e come è possibile valorizzare questo patrimonio che viene appunto dalla presenza di così tante culture in città? Ma anche in questo caso l'approccio adottato dalla precedente giunta, come è stato anche ribadito in precedenza, è stato sostanzialmente un approccio di difesa e fallimentare, invece di cogliere le tante opportunità che i nuovi cittadini possono offrire in termini di arricchimento culturale, ma in termini di esperienza, in termini di approccio alla vita, si è favorito sostanzialmente da una parte una ghettizzazione, una chiusura rispetto a queste enormi potenzialità. Ecco, secondo me l'approccio ai nuovi cittadini, secondo il gruppo, deve partire da due capisaldi. Una, appunto, la valorizzazione culturale e la conoscenza di quanto queste persone ci possono offrire. Quindi il comune dovrebbe farsi promotore, ad esempio, di organizzazioni di mercatini, mostre d'arte, festival musicali, dove gli italiani possono incontrare i cittadini proprio provenienti da altri paesi e comprendere qualcosa di più di loro e della loro storia. Ma anche chiaramente essere cittadini impone non solo dei diritti, ma anche dei doveri. Quindi è importante che chi viene in Italia sia reso partecipe della nostra cultura, e quindi il comune potrebbe ad esempio proporre in modo premiante dei corsi di lingua e di cultura, anche dei corsi di educazione civica, e in questo senso anche un ruolo importante dovrebbero giocarlo le associazioni che sono presenti in città, pure anche con i problemi di polverizzazione che ben conosciamo. Grazie Stefano. Mari. Grazie Stefano. Non voleva sdoganare l'abuso di alcol, voleva solo contenere i rischi, no? Io lo conosco, faccio il sottotitolo finale. Niente, penso che abbiate avuto la percezione di quantomeno di due cose, in termini di contenuti degli spunti principali del lavoro che è stato fatto e che siamo pronti a condividere e approfondire con tutti quelli che vogliono superare questo momento difficile, ma anche la percezione di un metodo, cioè di un metodo aperto a partire dal numero delle persone che hanno partecipato, che hanno ragionato, si sono impegnate per produrre idee, e un altro aspetto del metodo, la capacità di lavorare in squadra. Noi siamo l'unico soggetto politico che si presenta alle elezioni sotto forma di coalizione, quindi già il fatto di aver dato la misura, penso in modo plastico anche stasera, della capacità di fare sintesi, di superare i personalismi, penso che possa essere riconosciuto da tutti come un segnale importante nella prospettiva di una gestione diretta della città in un modo diverso, in un modo coeso, credibile, serio e coerente. Quindi siamo già disponibili da adesso, siamo andati un po' più lunghi del previsto, però ci fa piacere raccogliere riflessioni, contributi già da questa sera. Poi probabilmente utilizzeremo anche altri mezzi, Paolo raccomandava, non mi ricordo il sito, però dopo lo diffonderemo. Metteremo anche gli spunti del programma e il programma sul web, in modo da dare la possibilità anche di interagire, di mandare giudizi e contributi anche con quello strumento, sempre rimanendo aperti tutti gli altri tipi di contatti più tradizionali. Quindi se qualcuno ha piacere di portare qualche riflessione, è possibilissimo farlo. Grazie. c'è qualche spunto, qualche intervento in particolare? O che domande se volete, magari qualche chiarimento, se no vuol dire che siete stati esaustivi. Sono stati esaustivi, quindi credo che da questo punto di vista. C'è una domanda da un utente che sta seguendo in diretta. Perfetto, il microfono. Un attimo, chiede Como Libera, si chiama così l'utente. Sarebbe interessante sapere con quali iniziative si pensa di coinvolgere i cittadini, di solito politicamente non tanti, in questa campagna elettorale. Rispondo? Sì. Allora, beh, abbiamo... No, beh, magari... No, faccio da balletto. Tenere giù, se casomai... Fai tu il balletto? No. Innanzitutto... Vabbè, lo strumento informatico, il web, è già uno strumento che non crea barriere di tipo politico e ideologico, semmai barriere di tipo di confidenza col mezzo. Ma l'altro strumento sarà quello che è già stato sperimentato e praticato diffusamente nel corso delle primarie del centro-sinistra, quello di non aspettare che i cittadini convengano a eventi particolari, ma quello di andare sul territorio in modo anche semplice, in modo anche estemporaneo, anche per un aperitivo, per un caffè, per una chiacchierata, e incontrare i cittadini in modo anche informale. Ovviamente ci saranno anche iniziative più strutturate, specifiche, magari su tematiche importanti e rilevanti, che potranno essere localizzate in spazi che magari potranno coinvolgere più persone addette ai lavori, anche se di fatto chi è interessato può partecipare sempre. Ma si punterà molto anche con la presenza sul territorio, quindi andare nei quartieri, andare a incontrare la popolazione, ascoltarla, e lì ovviamente farà piacere incontrare tutti, ascoltando anche valutazioni critiche che possono sempre arricchire. Grazie. A questo proposito, credo che bisogna ricordare anche che sabato e domenica ci sono dei gazebi in giro per la città, è corretto? Sì. Sì. Sì, non ditemi dove sono, sì. Però ci sono di sicuro. La settimana scorsa erano in Piazza Duomo. Anche quelli, ecco, sentiamo dalla platea arrivano i suggerimenti, anche questa settimana, sabato e domenica, in Piazza Duomo, dove c'è anche un po' di materiale informativo, non credo ancora il programma con la stesura ufficiale, che rifineremo nel corso della settimana prossima, però sicuramente il materiale. C'è una domanda, c'è, in prima fila, c'è il balletto? Silvia? No, chi è il balletto con il micro? Se sei tu non possiamo dire balletta, se non il balletto si poteva prendere in giro. Una ragazza non si può. No, teniamo, perché serve anche per chi ascolta in diretta. No, tengo così, va bene. Buonasera, io sono Pierangelo Sfardini, l'architetto Sfardini, e ho deciso di appoggiare, malgrado sia un sostenitore dei giovani, quindi io non sono un giovane, sono contrario a questo gerontocomio che ci governa a livello generale, che continua da troppi anni, però per informazione, per conoscenza su certi problemi della città, io quando ho visto che Lucini era stato e ha ottenuto un risultato alle primarie che io mi auguravo, perché da tanti anni, qualche anno fa, in occasione delle famose discussioni di mettere a conoscenza i cittadini, che non lo sono ancora adesso, dei problemi delle paratie, perché le paratie se ne parla, ma la realtà la conoscono in pochi. Lucini, con la sua grande abilità, fu quella in comune, in quelle sedute in cui c'era la gente che bocciante, che non si faceva sentire perché era stata zittita con le finestre chiuse, si ricorda molto bene, è stato quello che ha spiegato anche a quelli che hanno fatto le magagne cosa avevano fatto. quindi con una chiarezza e con una anche una freddezza non comune. Quindi quando Lucini, per me Lucini è sempre stato la persona più adatta per fare sì, perché non aveva nessuna intenzione, non è una figura di leader, perché di leader bisogna togliere qualche vocale a volte, con i leader non si va lontano, che siano massimo o minimo, in generale portano a dei disastri. Ecco, è una persona preparata, modesta nel senso giusto della parola, conosce molto bene il suo lavoro ed evidentemente è quello che ha anche la maggiore esperienza a livello di consiglio comunale, perché non è facile vivere questi anni. È da 18 anni che la città vive in condizioni disperate. Il discorso delle paratie, tra l'altro, è stato uno dei firmatari della famosa petizione, della famosa che abbiamo mandato alla Procura della Repubblica contro, io e l'architetto Pandakovic, contro questa idiozia delle paratie. Idiozia iniziale, una creata da una forma di... La città di Como, una delle città più ricche d'Italia, che va a mendicare, a portar via i sussidi per Delebio, Ardenno, Morbegno, danneggiati pesantemente dall'alluvione, allunga la sua mano, in generale cortissima di braccio, per prendere dei soldi. Anche noi abbiamo patito. Prende 18 miliardi che finiscono adesso come sono finiti. Io le chiedo la ringrazio. È finita qua. Però io mi ricollego poi con i discorsi che hanno fatto i colleghi Bracchi, eccetera, su quella che è la salvaguardia del territorio, eccetera, disprezzato in maniera spaventosa. Ecco, Como è una città bella perché si sono accorti per primi i fondatori di Como. Abbiamo presente che Como è una delle città più antiche dell'Italia. Dopo Roma, 200 anni dopo, i Comasi, quelli che sono arrivati lì, non c'era la città, gli hanno detto qui va fatta la città. È uno dei pochi luoghi geografici in cui una città deve venire fatta. Hic malibimus optime, hanno detto. È il primo discorso, parliamo del 500 avanti Cristo. Quindi da qui tante cose. Però tante le chiedo solo una cortesia. Non ripercorriamo la storia da allora ad oggi, perché se no non andiamo più. Sto dicendo che non c'è. No, vorrei che magari cogliessimo l'opportunità magari anche di far sentire qualcun altro. Grazie. Io voglio dare qualche spunto per quello. Grazie mille. C'è una signora lei in sesta fila. E ho preso intanto che arriva, visto che è lontana, un cinchetto subito, perché ho detto sono i banchetti di Piazza Duomo, allora vi informo compiutamente, prendete nota. Sabato mattina ci saranno anche ad Albate in via Canturina, a Muggiò vicino all'edicola, a Prestino in via D'Annunzio e anche in Largo Miglio. Mentre domenica mattina ci saranno a Muggiò, a Lora, in via Don Bosco, e sempre a Prestino, oltre che in piazza San Fedele, in piazza Duomo. Ma questa non è la tua gente tascabile? Sì, questa no. Elettronica. Ah, è quella elettronica, ok, perfetto. Prego. Buonasera, sono Miriana Ronchetti. Vorrei chiedere una cosa, magari non sono stata molto attenta, però ho sentito parlare poco del tema anziani. Vorrei sapere se nei gruppi di lavoro si è parlato di qualche progetto, qualche attenzione particolare verso questo tema. Ci sono tantissimi anziani in città, tutti noi abbiamo genitori, comunque parenti anziani. E tutti noi speriamo di diventarlo soprattutto. Certo, ma in una maniera buona, perché frequento spesso anche per lavoro dei luoghi dove ci sono dei gruppi di persone anziane, che secondo me sono un po' troppo relegati, sembrano un po' dei ghetti. Quindi, così, una domanda, avete pensato sicuramente a qualcosa di questo genere? Grazie. Sì, sì, senza buttarsi dalla balaustra. Allora, brevemente... È stata data come premessa che non abbiamo fatto un'analisi di dettaglio. Sul tema degli anziani, che ovviamente è un tema che ci riguarda, tra virgolette, in prospettiva, dobbiamo dire due cose. Primo, c'è un problema di accompagnamento dell'anziano, di un suo monitoraggio. Ci sono esempi importanti nella nostra regione, per esempio a Abbiategrasso, che ha avuto l'esperienza di un sindaco che era direttore di una struttura sanitaria, che ha organizzato percorsi di perseguire l'avanzamento della persona in età geriatrica in maniera tale da prevenire la cronicità o il precipitare in situazioni irreversibili, mantenendo e massimizzando l'autonomia della persona. Il secondo tema è legato alle strutture. Le strutture oggi, dobbiamo dirlo a tutti, non sono gestite nessuna direttamente dall'amministrazione comunale. In questo momento a Como sta succedendo una cosa interessante. Calindustria, che nasce come IPA e diventa recentemente fondazione, decide che il modello della casa albergo di Via Volta deve essere abbandonato. È una decisione unilaterale legata alla motivazione sostanzialmente economica, ma questa motivazione economica è legata al fatto che questa struttura capace di 60 ospiti oggi ne tiene poco più di 15. La struttura è di proprietà comunale ed è data incomodato a questa realtà. La domanda è: chi decide le politiche degli anziani? Questa è la domanda. Il Consiglio di Amministrazione di Calindustria, che è fatto di 7 componenti, ne ha ben 5 che sono di nomina sindacale, da parte del sindaco. Uno è nominato dalla regione, uno è nominato dalla provincia. La risposta che do quindi non è pertinente soltanto al tema degli anziani, ma in generale. Noi metodologicamente riteniamo che non si possa e non si debba nominare una persona in nome e per conto dei cittadini comaschi senza un indirizzo, senza un mandato. Ad oggi guardate che questa cosa succede sistematicamente: vengono nominate delle persone che vanno a rappresentare tutti noi da qualche parte senza che sia dato un indirizzo condiviso a livello, per esempio, di struttura di consiglio comunale. A meno che il mandato non fosse quello di chiudere Calindustria. Allora, il mandato di chiudere Calindustria non è quello, ma in effetti poi le scelte politiche che sono fatte lì dentro, per esempio la scelta dell'autonomia piuttosto che la scelta della ospedalizzazione dell'anziano. Oggi è chiaro che è molto più conveniente avere una struttura nella quale ci prendiamo l'anziano completamente non autosufficiente, lo caratterizziamo, lo alimentiamo forzatamente, lo teniamo nel letto, e questo minimizza i costi. Questo ovviamente va nella direzione assolutamente contraria del mantenere la, come dire, vitalità della persona. E poi dentro il nostro programma, che potrete vedere in sintesi nel sito, troverete scritto che l'investimento in luoghi di cultura, di animazione, di aggregazione è un investimento essenziale. Già oggi ce ne sono in alcuni quartieri della città, ma sono, come dire, gestiti in maniera completamente autonoma, senza risorse, senza aiuti, senza essere messi in rete. Questo ovviamente è una prospettiva culturale, un altro problema di cambiarci la testa, cambiamocela tutti insieme. Noi credo che abbiamo la voglia e proprio la determinazione di assumercelo questo ruolo di regista di un pensiero diverso. Aggiungo un flash sugli anziani del nostro gruppo: rifare, sistemare, integrare la rete dei marciapiedi. Ecco, mi permetto un dettaglio su questa cosa che ho ricordato al Terzi. Sì. Non è stato approvato il bilancio, ma è stato approvato il piano delle opere, che è stato pubblicato il 31 gennaio. Andandomi a leggere il piano delle opere, io scopro, vedo, leggo, lo potete leggere anche voi, che con i pochi soldi che ci sono, però realizziamo ancora qualche rotonda che ci manca effettivamente. Mentre chi ha provato a camminare sui marciapiedi di questa città sa che sono un vero disastro. Io credo che una delle prime cose che potremmo fare è prendere quei soldi destinati a qualche rotonda e destinarli immediatamente ai marciapiedi. Scusate, posso aggiungere una informazione relativa alla domanda, sempre nell'ambito del sociale. Si alza le faniere, sì. Perché? Prima di Liana, mi era un'enchete a poi con la beata casa albergo, no? Su cui noi po' di cittadini, no? In particolare dell'Università Popolare che alloggiamo nella stessa struttura, avevamo già raccolto delle firme, avevamo scritto una, così una protesta, espresso una protesta, perché allora l'allora presidente della Calindustria aveva già ventilato questa ipotesi di chiusura. Adesso poi che l'ipotesi di chiusura arriva col nuovo consiglio, su cui metodo sappiamo, siamo d'accordo, no? Che è veramente è affidato alla discrezionalità sindacale, il che veramente contrasta con tutto quello che pensiamo noi, credo. Quindi l'improvvene è che si batta il ferro finché è caldo e magari facendo una proposta che modifichi la struttura, l'organizzazione della struttura. Ci sono 16 persone anziane, i posti sono 60, tra l'altro la struttura è bella in centro, però con un anziano che è ancora in grado di muoversi, cioè è veramente la soluzione ideale, no? Sono stati scoraggiati tra l'altro a non domandare, a inviare domande. Quindi noi potremmo fare un'ipotesi invece di ampliamento della rete, vale a dire, perché soltanto gli anziani? Ci mettiamo anche i giovani, ci mettiamo anche persone che hanno davvero, come era all'origine, un'esigenza parte contingente di trovare un alloggio. Quindi cerchiamo di mutare un po' le caratteristiche di questa struttura, che però deve rimanere aperta, deve rimanere in città, assolutamente, è troppo importante. E io vorrei che vi prendesse a cuore. Grazie. Sì, probabilmente se gestita bene potrebbe davvero anche continuare ad essere o ritornare ad essere una struttura per anziani autosufficienti. Ci sarebbe sicuramente la possibilità di utilizzarla a pieno anche solo con questa tipologia. Purtroppo abbiamo constatato tutti che la situazione di Calindustria è stata gettata in condizioni drammatiche da una gestione che non so come definire senza prendermi una querela, da una gestione assurda che ha messo in ginocchio la fondazione. Io devo dire che per quei pochi contatti che ho avuto con la nuova gestione mi sembra che il taglio, la statura e l'approccio delle persone, benché sempre di nomina sindacale, sia tutto diverso. Quindi credo che la possibilità anche dal 6 maggio in avanti di instaurare relazioni e rapporti diversi con una presenza del comune più attenta ci siano tutte. Certo, la situazione di dissesto economico finanziario che è stata ereditata e che tuttora non è risolta, voi sapete benissimo la situazione assurda dell'appalto per la gestione dei pasti, che di fatto è ancora di là dall'aver trovato una soluzione, che comporta perdite costanti mensili di entità rilevante. Per cui sicuramente è una struttura importantissima per la città, che in condizioni di ritrovato equilibrio potrebbe certamente rivalorizzare anche quella situazione, magari chissà si potrà rivalorizzare anche col contributo di altre realtà associative, se solo con Calindustria non si riesce. Beh, mi sembra di dire che comunque l'idea della signora sia particolarmente interessante, considerando anche questa voglia di trasversalità, diciamo, magari giovani e anziani insieme possono anche dare darsi un aiuto reciproco, quindi questo concetto di intergenerazionalità che si potrebbe stabilire. C'è un intervento della signora? Volevo chiedere, non ho sentito parlare di che fine fanno le circoscrizioni. Mi sembra che in tutto il discorso che in ognuno degli interventi la circoscrizione dovrebbe avere un ruolo. Io abito da poco a Como, non ho capito che fine fanno. A me spiace, perché secondo me la circoscrizione a Como, alcune circoscrizioni hanno svolto delle funzioni notevoli, culturali, di tante cose. Le rispondo subito, signora. Le circoscrizioni, per la normativa vigente, sono state abolite da una legge dello Stato. Solo per le città con più di 100.000 abitanti è prevista, per i capoluoghi con più di 100.000 abitanti è prevista ancora la possibilità di avere le circoscrizioni, quindi sono state abolite per legge. Ovviamente nel discorso di promozione di cittadinanza attiva e di partecipazione che è stato affrontato anche nel gruppo con la prima relazione di Gisella Introzzi, c'è tutta la volontà di sperimentare strade per favorire comunque una presenza attiva dei cittadini anche nei quartieri. La prima ipotesi più credibile da verificare immediatamente che si può pensare è quella di tentare di riprovare l'esperienza dei consigli di quartiere spontanei che erano sorti a Como negli anni 70 prima che venissero istituzionalizzate con le circoscrizioni queste realtà. Ovviamente si tratterà di verificare sul territorio la presenza, la disponibilità e la voglia. Lo sappiamo tutti che il clima non è più quello degli anni 70, però sappiamo anche che in città, e l'abbiamo verificato, le persone che hanno voglia di interessarsi e di impegnarsi per la città, vista la situazione che sono stufi di vedere, è molta, per cui è una strada che sarà sicuramente verificata e potrebbe essere uno strumento per comunque avere la presenza di una rete di relazioni e di rappresentatività a livello di quartiere che possa supplire al ruolo delle circoscrizioni, che devo dire peraltro in questi ultimi anni era stato comunque abbastanza un po' in caduta. Sono sempre stati dei punti di riferimento. No, in alcuni settori certamente. Sono, la 6. No, gli uffici rimarranno ovviamente. Anche i cittadini, certo, erano un punto di riferimento. Mi sembra assurdo. No, mi ricollego all'ultimo discorso, sì, che faceva Mario. Sì, che... Io vabbè, sono consigliere di circoscrizione uscente e vi dico che per la mia esperienza è stata del tutto deleteria, forse perché sono in opposizione, ma anche in maggioranza non credo che si rispetti. Deludente più che deleteria. Eh? Deludente più che deleteria. Sì, ecco. Deludente è anche, userei anche un'espressione più forte, perché di fatto il consiglio di circoscrizione, la mia circoscrizione che era 2, la circoscrizione di Lora, nell'ultimo anno si è trovato una volta. Questo per farvi capire la rappresentatività e la funzione che le circoscrizioni hanno avuto in quest'ultimo mandato. Quindi, certo, bisogna trovare diverse forme di coinvolgimento, però qualsiasi cosa si metterà in campo difficilmente sarà inefficace rispetto a quello che c'è ora, quindi non si sta, se le circoscrizioni o le si rivitalizzavano o comunque allo Stato, anche per come sono state concepite da questa giunta, non avevano più senso di esistere. Ecco, c'è un intervento, poi c'era anche un'altra signora, mi sembrava che avesse alzato la mano, giusto? Io vengo dall'Oggione, quindi. Certo. Scusate. Se un po' nel mio stile posso fare qualche critica. Allora, partiamo dal dato politico, perché stasera ci vogliamo tutti bene, da domani no, nel senso no, tra di noi sì, ci mancherebbe altro. Però no, adesso, seriamente, il problema è che in questa città ci troveremo di fronte a una campagna elettorale abbastanza difficile, sia nei termini quantitativi, cioè nel senso che noi tutti sappiamo che sarà una campagna carica di candidati sindaci e carica di liste. Allora, spesso, forse quello su cui noi manchiamo delle volte, è il fatto che tutto quello che noi diciamo, lo diciamo in forma forse troppo generica. E la mia paura è che in una situazione politica di questo genere lo sforzo debba essere quello di declinare tutto quello che noi abbiamo detto stasera, perché se non facciamo questo, io ho partecipato fin dall'inizio a tutta questa campagna, e ho la paura che se affrontiamo la campagna in questo modo di sicuro veniamo non omologati a tutta una serie di persone che comunque hanno bene o male le nostre idee. Poi si sa benissimo che in campagna elettorale sono tutti buoni e tutti vogliono fare una paccata di cose. Allora, il problema del già adesso quella l'ha già detto. La Frignona l'ha già detto. Allora, ci faccio una proposta, così sì, faccio più di due. Una diretta ai relatori. Se loro dovessero domani fare su ogni argomento due cose, che cosa farebbe? Cioè, questo secondo me è la domanda che io farei, primo. Secondo, io credo, e velocissimamente, che questa città stia veramente soffrendo tanto, perché mancano veramente le cose fondamentali. Ad esempio, i giovani, secondo me, non è solo un problema culturale di offrire, dobbiamo offrire anche divertimento. Ad esempio, nella proposta che abbiamo fatto e che Alberto ha illustrato sul problema urbanistico, qualcuno di noi ha fatto una proposta banale, ma che secondo me è fondamentale. Ad esempio, aprire il parco dell'UPP. Non me ne frega niente se ci deve andare all'università o qualsiasi altra cosa. È il parco della città. Ad esempio, la prima cosa che io farei è togliere il muro e fare in modo che si realizzino delle aree di svago. Ad esempio, una piscina all'aperto. I nostri ragazzi dove vanno d'estate a fare il bagno? Dico una banalità, andiamo in Svizzera, giusto? Allora, perché il comune di Como e noi non possiamo fare ad esempio una proposta banale del genere? Certo. Non parlo della ticosa eccetera, se no poi mi dilungo. Un'ultima provocazione: a me fa specie sabato dover andare a raccogliere le firme in piazza Miglio. Non possiamo cambiare il nome di quella non preoccupate, comunque, che le proposte saranno specificate e dettagliate in termini di concreta possibilità di realizzazione. Come torna sulla giovane? Ah no, pensavo scappasse dopo la domanda. Sicuramente il discorso dell'apertura del parco è previsto sulla piscina. Si può ragionare, bisogna vedere anche di non perdere una briciola del valore di quel parco, per cui sarà da valutare bene l'opportunità di farlo in un posto come quello piuttosto che altrove, una piscina all'aperto. Comunque, sul fatto dell'apertura del parco alla città è sicuramente il primo passo realizzabile, oltre a una probabilità poi di tutte le strutture. Comunque ci sarà la misura della concretezza delle risposte anche per iscritto, diciamo. Peraltro tutto questo sarà presente, mi sembra, proprio all'interno del documento programmatico. Quello di questa sera ha voluto essere la presentazione di alcune linee importanti su cui già diciamo si vuol fare una proposta alla città. Questo almeno era tutto. Il programma è molto più esteso di dettagliato. Anche noi qui Piuva ci invitava come relatori a indicare le prime due priorità. Noi qui non siamo in veste di relatori, noi qui siamo in veste di relatori rispetto a un discorso che è stato collettivo e quindi come tale non ha messo le personali opzioni su una o sull'altra questione. Io penso che il lavoro importante sia quello che anche questa sera abbiamo avviato e stiamo facendo, di confrontare le idee, le proposte che sono emerse e, con l'aiuto più esteso possibile, anche costruire un ordine di priorità che poi si ritroverà nel programma finale, che sarà il programma del sindaco e di tutta la coalizione. Quindi direi che proprio la fase che parte ora e che dovremo completare molto rapidamente è quella, attraverso l'ascolto, di elencarle queste priorità. Non sta a esprimere la nostra posizione soggettiva. Sì, un altro utente che segue la presentazione da casa in diretta su Quicomo chiede: cosa si farà dell'inceneritore, se c'è qualche proposta per il futuro per quanto riguarda l'inceneritore. Qualcuno qui addirittura in chat propone di smantellarlo, cioè di bruciare l'inceneritore. Allora, vabbè, dopo casomai se vuole aggiungere qualcosa Alberto, se no io dico, so quello si è discusso a lungo nel gruppo di lavoro sull'ambiente e sull'energia, dei problemi dei rifiuti e dell'energia. Certamente non si gestirà il problema rifiuti con lo scopo di far funzionare l'inceneritore come succede ora. Quindi la priorità sarà sicuramente quella di arrivare a una raccolta differenziata spinta, che non vuol dire niente di più di quello che c'è in molti altri comuni. Per non citare il solito Salerno, potremmo citarne altri, assolutamente alla portata in termini di dimensioni e di caratteristiche della nostra città, e che sono arrivati a livelli del 70%, 75%, mentre noi siamo a 35% di una differenziata fasulla. Questo non significa che in termini immediati o come obiettivo credibile e realizzabile ci sia quello di eliminare l'inceneritore, che peraltro potrebbe anche funzionare in altri modi o con altri combustibili. La signora? Buonasera, mi chiamo Daniela Tombesi e volevo chiedere alcune informazioni e dare il mio elenco di priorità da cittadina comasca. Io trovo che, riallacciandomi a quello che si è sentito rispetto alla città turistica che Como giustamente potrebbe vantare di essere, mancano dei presupposti a dir poco fondamentali, perché le strade sono penose, i marciapiedi sono penosi. Abbiamo una passeggiata al largo Villa Olmo che è attualmente, non da poco, impraticabile. Le mostre non so come, se ci saranno, come potranno essere, cioè potrebbe essere un'occasione per far vedere. La inaugurano la settimana prossima, mi sembra, venerdì prossimo. Del fatidico muro, non so se si è deliberatamente o so per quale motivo non parlato, e vorrei sapere se qualora voi sarete la nostra nuova amministrazione, avrete la possibilità di intervenire per innanzitutto chiudere al più presto, perché la cosa sta diventando veramente insostenibile, e quali possibilità avete di interagire su un percorso che è già ampiamente avviato e che quindi non so come voi possiate muovervi in questo, se è una mancanza di soldi anche per tutte le altre opere che ho citato, strade, immagino di sì, però diciamo che le priorità sono priorità e secondo me queste sono priorità, vorrei sperare che lo siano anche per voi. Sì, beh, sulle strade e i marciapiedi credo che non siano richieste risposte, sia solo sottolineata da parte sua quella che è evidente a tutti, che la condizione non è accettabile, quindi non c'è solo un problema di bella vista o di presentazioni turistiche, c'è in molte zone anche un vero e proprio problema di sicurezza per chi si muove sia a piedi che in macchina che in bicicletta, quindi chiaramente è evidente che il problema è legato a una scarsità di risorse sicuramente, ma anche all'esigenza di avere una diversa gestione delle risorse, un controllo degli appalti, come si diceva prima, molto più accurato, perché bisogna andare a recuperare il centesimo nella situazione in cui siamo adesso, quindi sicuramente quella è una priorità, perché è la prima cosa che incontra il cittadino, non tanto in termini estetici ma in termini fisici. L'altro problema del lungolago è sicuramente un problema complesso, i lavori dovevano essere finiti da un anno di tutto quanto, invece sono già passati 4 anni e 2 mesi e non è neanche a metà strada l'esecuzione del progetto che è stato approvato. La situazione è sicuramente complessa perché Cioè, adesso lì l'arresto dei lavori non è legato ai soldi, è legato alla situazione del progetto che è stato fatto, rifatto, rimasticato, rielaborato, modificato mille volte perché non sta in piedi e perché finalmente si sono accorti anche loro adesso che è pericolosissimo andare avanti a fare quelle cose lì, per cui continuano ad aggiungere interventi di cautela per preservare gli edifici, eccetera, e quindi ci sono state continue rielaborazioni che hanno arrestato i lavori. In più si è innestata su questo la difficile situazione della società che ha vinto l'appalto, della Sakarin, che è prossima o a rischio di fallimento, per cui adesso tutte le settimane dicono che la prossima settimana ricominciano i lavori. Io non so, non sono passato in questi giorni, ma fino a qualche giorno fa non c'era ancora nessuno. Quindi questo è un altro elemento di complessità, perché non si capisce come verrà consegnata al fine del mandato amministrativo, se andranno avanti a fare delle opere o se non andranno avanti. E il discorso è quello di cercare di arrivare subito a una soluzione possibilmente anche condivisa e confrontata con la popolazione in termini di sistemazione esterna, e andare a ricontrattare con Regione, che ha in mano il pallino dei soldi e quindi anche, dice l'ultima parola, sui progetti, ricontrattare con Regione e con Sakaim, se resterà Sakaim, i termini del progetto per ridurre al minimo ulteriori opere nel sottosuolo pericolosissime e a rinegoziare anche la quota di massimo invado del lago, in modo da evitare di doversi dotare di strutture che adesso sarebbero mobili ma pur sempre di dubbia efficacia in termini di posa e delle strutture, inutilmente. Abbiamo detto tutti, cioè, se anche una volta ogni tre anni viene fuori il lago, penso che si fosse accettata questa condizione, non ci saremmo rovinati la vita per quattro e sicuramente altri due. Credo che servano in ogni caso, probabilmente anche solo per mettere una pezza a quello che è stato fatto. Non solo. Voi riuscirete a farlo diventare balneabile se, certamente, se anche esce una volta. Nelle vasche, certo. Nelle vasche faremo le vasche che ci sono solo sì, allora un flash di Alberto Bracchi e ultime due domande perché insomma 11:30 quasi. Un flash di risposta sempre alla signora rispetto alle strade. Ovviamente per sistemare le strade si vogliono dei soldi, però per fare un percorso ciclabile basta un'ordinanza, una striscia gialla, magari eliminando un po' di parcheggi, ovviamente all'interno di un piano integrato. Per fare una zona 30 basta cominciare, non basta in assoluto, ma cominciare con un'ordinanza e della segnaletica, per cui le risorse davvero economiche possono essere anche molto limitate, sì? Basta la volontà politica. Buonasera, un problema generale, non solo di Como, è quello del vandalismo, che c'è il problema dell'arredo urbano e i negozianti o anche i cittadini non sono stimolati, insomma, a contribuire all'arredo urbano che viene distrutto, c'è il problema dei costi per un'amministrazione e comunque l'immagine di una città viene degradata al di là della volontà dell'amministrazione. Però è un problema che in effetti viene con difficoltà affrontato. Voi pensate che ci sia qualche possibilità, perché Como ad esempio soffre in modo particolare in questo aspetto? Allora, sicuramente gli strumenti di controllo ci vogliono, la repressione dei reati ci vuole, però sappiamo benissimo che non è risolutiva del problema, non può mancare, ma non è risolutiva del problema. Una presenza diversa, una relazione diversa con la città, una presenza di vita nella città diversa, una cura della città diversa. Degrado, chiama degrado, no? Una famosa teoria come quella della finestra rotta. Cioè, se noi abbiamo una strada che viene pulita, spazzata dai mezzi dell'Econobono una volta ogni tre settimane, dove c'è il buco, viene su due cubetti, vengono su due cubetti di porfido, gli mettiamo su una badilata di catrame, dove i cestini sono rotti, dove... degrado chiama degrado. Probabilmente ci vuole anche un investimento iniziale magari forte per contrastare sporchi puliamo, teniamo pulito, già questo siamo, multiamo e controlliamo era già dentro. E poi anche un sistema di relazioni sociali diverse creano anche situazioni di controllo sociale, una relazione diversa tra le persone rende anche più difficile il manifestarsi di questi fenomeni. Sicuramente non è una cosa che risolvi in una settimana, però si può creare un clima diverso, perché il vandalismo non c'è in tutte le zone della città, per esempio. Non è in tutte le zone, ci sono quartieri più vissuti dove c'è più presenza di persone, dove c'è più vita di relazione tra una casa e l'altra e dove questi fenomeni sono più contenuti. Sicuramente non basta solo quello, però anche una crescita della città in termini di comunità sicuramente è un deterrente importante. Se posso un attimo aggiungere su questa cosa, io ritorno a riprendere quanto diceva Stefano prima, cioè questa è una città che è particolarmente in debito con i giovani e la risposta dei giovani è anche questa. Quindi pensare degli spazi in cui i giovani si possano divertire, degli spazi in cui si possa anche dare spazio al loro desiderio di stare assieme, a esprimere la loro creatività, è l'alternativa a vederli semplicemente in giro a imbrattare i muri. Faccio un esempio banale che mi sembra molto bello. A Milano, nei sotterranei della stazione Garibaldi, dove ci sono dei corridoi lunghissimi, la scelta è stata quella di lasciare questi spazi per dipingere, per fare dei graffiti che oltretutto sono stati oggetto anche di valutazione di premi. Ecco, è un modo diverso per parlare con i giovani, cioè altrimenti abbiamo semplicemente la loro rabbia e la loro voglia di distruggere tutto. Dopodiché tutto il discorso sul controllo, sulla punizione, sul recupero è importante, però va pensato proprio anche a incanalare l'energia e le risorse giovanili in modo positivo. E ne approfitto, chiedo scusa, anche questo rimanda ancora al discorso delle circoscrizioni cancellate per legge unicamente perché viste come costi della politica da ridurre, però in realtà non viste la loro dimensione di comunità. Ecco, già è stato sottolineato quanto invece si possa comunque mantenere in una forma di partecipazione spontanea, possono essere riprese e ad esempio un loro ruolo proprio anche su questo aspetto del controllare, del difendere meglio il territorio può essere molto importante e non essere più un costo della politica ma risorse aggiuntive su cui la città può contare. Aggiungo anche un pensierino, noi questo argomento l'abbiamo messo tra i passaggi, è stato segnalato molto nel gruppo di lavoro sul tema sociale il problema dei giovani in generale e dell'accompagnamento degli adolescenti, ci sono persone espulse dalla scuola, persone espulse dal mondo del lavoro o senza lavoro, persone che non vanno né a scuola né al lavoro e poi c'è, e dobbiamo dircelo, avere il coraggio di dircelo, la rabbia sociale. Noi non dobbiamo far finta di credere che questi si risolvono soltanto con interventi tra virgolette di controllo di polizia e di punizione che servono. Dobbiamo anche ricostruire, l'ha detto Mario prima, io sono d'accordissimo, ricostruire la comunità. Se l'area che si respira è diversa, se il meccanismo di espulsione è abbassato, se ci sono delle strutture che sono capaci di intervenire, competenti, e a Como qualche competenza c'è che prova a intervenire. Il discorso della regia è anche questo, ci sono insieme passaggi diversi, non possiamo semplificare, chiunque riduca il problema a un unico elemento, l'intervento punitivo, solo l'intervento educativo, solo l'intervento relazionale, ci vogliono tutte queste cose coordinate e soprattutto ci vogliono operatori capaci di farlo. Il problema del come dire, competenze psicologiche, sociali, educative. È un problema serio che questa società ogni tanto si risveglia e scopre. Noi dicevamo prima, c'è il problema di aiutare la famiglia a essere famiglia, perché se tu sostieni il nucleo fondamentale, ovviamente metti la famiglia nelle condizioni, per esempio, di accompagnare gli adolescenti nelle loro fatiche, di accompagnarle nelle loro ferite, nei loro fallimenti, e con questo, come dire, chiede risorse, chiede attenzione, chiede di coordinare tutto quello che c'è sul territorio, che oggi non fa più nessuno. Abbiamo analizzato i dati di coloro che fanno interventi per gli adolescenti, sono quasi tutte realtà private nel corso dell'estate. I ragazzini finiscono la scuola se le riprende nel mese di settembre, e nel frattempo chi bada a loro? Quelli che hanno delle famiglie che sono in grado di accompagnarli e badare a loro? Bene, e gli altri? Bruno, volevo aggiungere proprio una cosa semplicissima prima di dare la parola alla signora. Stamattina c'era un articolo che mi ha molto colpito, dove ho visto che anche Mario ha inserito nel suo account Twitter, e cioè si parlava del problema legato all'adescamento, no? Via internet, via Facebook e via dicendo dei giovani, no? Da parte di persone ovviamente con grossi problemi, e che creano grossi problemi alla società. Ecco, la risposta dell'esperto era: sicuramente i genitori non possono limitarsi a dire di no, non usare Facebook. E diceva: iscriviti tu papà, tu mamma, iscriviti tu a Facebook, chiedi l'amicizia di tuo figlio e insieme a lui controlla, cioè vivi con lui l'esperienza di Facebook. I figli non ti danno mai l'amicizia di Facebook, questo lo so, assolutamente proibito e vietato. Questo era poi pericolosissimo, questo ovviamente... pochi che te lo danno, dopo gli chiedi di togliertela tu, perché dopo aver seguito. Questo ovviamente era fino a una fascia di 13-14 anni, ma questo per dire come sia necessario per un genitore di seguire, no, il proprio figlio, di giocarsi con lui nella vita di tutti i giorni. Do la parola alla signora in fondo. Como e immigrazione. Quali idee, quali progetti per favorire l'interazione dei cittadini e delle cittadine straniere, per promuovere il dialogo con le culture altre? Ha detto qualcuno: volevamo braccia, sono arrivate famiglie, arrivano famiglie. Le stanze credo che non siano soltanto quelle della moschea, le stanze sono molte, sono varie. Come rispondere a queste stanze nell'ottica proprio del dialogo e della interazione, non integrazione? È pensabile un centro interculturale? In moltissime città d'Italia esistono i centri interculturali, che sono luoghi proprio di dialogo, di conoscenza reciproca. Non so come i cittadini comaschi percepiscano l'immigrazione. Io credo che sia vissuta soprattutto come problema, e invece credo che sia arrivato il momento che venga vissuta come risorsa, se non altro dal punto di vista demografico, voglio dire. Ecco, quali idee, quali progetti? Ritorno sul centro interculturale, che mi sembra molto, molto importante. Grazie. Sicuramente, nel senso che in questi mesi abbiamo incontrato anche spesso diversi rappresentanti delle comunità straniere presenti a Como. Devo dire che molti sono anche ben inseriti nella nostra comunità. Io penso che poi la diffidenza maggiore, come in tutte le cose, risiede nelle persone comasche che non hanno mai avuto relazioni con persone straniere, perché il primo passo è quello della conoscenza, e quindi questo è il primo passo che deve favorire l'ente pubblico. già un processo automatico, è garantito da, molto spesso dal percorso scolastico. Infatti già il fatto che ci siano molte più famiglie qui rispetto ai primi anni in cui erano quasi solo giovani maschi e basta, ha già contribuito a creare relazioni molto diverse. I nostri bambini vanno a scuola insieme e già questo passaggio ha contribuito moltissimo a superare vaste sacche di diffidenza che esiste ancora, esistono ancora i problemi comunque, perché al di là della diffidenza comunque il problema del confronto con culture diverse è comunque un problema, non si può negare che lo sia, è un problema che però va affrontato perché è la nostra storia, la nostra vita, per cui non possiamo sicuramente scansarlo. Sicuramente c'è bisogno, dal confronto fatto con loro sono emerse due esigenze prioritarie che penso, anzi che sono certo, saremo in grado di sostenere con delle risposte. La prima è quella di migliorare e ampliare il supporto delle mediazioni culturali, dei mediatori culturali nell'ambito di tutte le strutture in cui ci sono relazioni, quindi dall'accesso agli uffici pubblici agli ospedali, alle scuole, eccetera. L'altra cosa che mi sembra molto importante, perché è un'idea che abbiamo raccolto ma che è uscita da loro, da diverse comunità, è quella del poter costituire una consulta degli stranieri con i rappresentanti delle varie comunità, che possa avere anche, possa essere anche un interlocutore dell'amministrazione. Quindi questo sarebbe molto importante sia per le relazioni tra le varie comunità straniere che sono qui, perché sarebbe un passo anche da parte loro nel confrontarsi già tra stranieri e quindi trovare anche delle forme di rappresentanza, e sarebbe poi importante per l'amministrazione comunale per poter raccogliere anche in modo efficace le esigenze e individuare e anche costruire insieme delle risposte. Grazie. Prima hai parlato del caffè con Mario Lucini, no? dell'iniziativa del caffè con Mario Lucini. Adesso vedo che ci hanno portato qui una sorta di borsa della spesa. Cos'è che c'è? No, ma datemi anche a fare la spesa, che già mi manda mia moglie, devo andare a fare la spesa per voi, no? Cosa c'è dentro in questa busta? Che valore ha? Volantini. Strumento di lavoro per diffondere e comunicare, visto che Piuba diceva prima che sarà difficile la campagna perché ci sono mille liste in più, alcune di queste liste hanno anche risorse molto maggiori delle nostre, quindi ovviamente dobbiamo usare gli strumenti della relazione personale, dei contatti, che sono poi quelli che funzionano di più, perché se dobbiamo riuscire a costruire, arrivare insieme a dare risposte nuove, importanti per la città, dobbiamo riuscire a far passare l'idea e aggiungere risorse alle nostre risorse, sia in termini di proposte, sia in termini di collaborazione sul territorio in cui ciascuno vive. Direi che siamo in chiusura, sì, era l'ultima domanda. Grazie a tutti.